premo rec e si vola. E si vola. Quando bevo sembro Forrest Gump, mi risveglio nel tenente Dan, da questa giungla come un Viet Cong, torno a casa dopo il Vietnam, fai il parancione tipo Donald Trump, a Milano mi con il tram, mi perdo pure con il tom tom, potrei ballare pure il cam cam, non devo dire mai di sì, meglio non dire mai di sì, non devo dire mai di sì, meglio non dire mai di sì. Bevi questo, fuma quello, tira quel, tira tardi, la mia faccia, tira segni, la tua faccia, ti Natale, tira segni, mezzanotte, stile attento, chiama il busce con il boost, fa rispetto, per la fuga nella giungla, con le boost, e se lunghi, 10 grammi, complimenti. Sto pensando che fa schifo la coca, giuro che stanotte bro ci dormirò sopra. Tutto fatto sul sofa, tipo na na na na na na, non ricordo la strofa. Ho visto bene, e dopo dire, cose vere, da non dire. Un crocifisso manda a farsi benedire. Ho gli anni di Cristo, quindi è meglio non uscire. Sai quel film che ti dicevo? Fa paura, non ho visto la fine. Vuoi sapere qual è il titolo vero? Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Forse perché questa giungla non è così verde, non è come f***. Forse perché c'ho una palla di guida, se gine mi fo tutti giù. Forse perché quando vengo la notte mi ingoia, mi strappa la zia. E ti giuro è sicuro mi lascerà nudo a ballare sul mondo così. Così è, così è, così è, proprio così è. Così è, così è, così è, proprio così è. Vengo alla festa e poi pisce, ti scrivo il mio nome sul muro del pianto. E mi sveglio col cerchio alla testa, sicuro qualcuno mi avrà fatto santo. Più facile a farsi che a dirsi, rap 5 stelle mano Beppe Grillo. Difficile infatti capirsi, io porto rispetto solo per chi brilla. Sapessi quante cose che non racconto, magari sarà un giorno sì ma non stavolta. Fumo tutto il giorno e sono strabotto, poi mi guardo intorno come già un'altra volta. Sai quei film che ti dicevo, fa paura non ho visto la fine. Vuoi sapere qual è il titolo vero? Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Forse perché questa giungla non è così verde, non è come f***. Forse perché c'ho una palla di guida, se gine mi fo tutti giù. Forse perché quando vengo la notte mi ingoia, mi strappa la zia. E ti giuro è sicuro mi lascerà nudo a ballare sul mondo così. Così, così, così, proprio così. Così, così, così, proprio così. Allora, siamo così forti che come sempre siamo riusciti a inventarci la puntata di oggi parlandone tipo al cosa, questo gesto delle chiavi, cosa vuol dire? Aprire la porta del cielo? Apriti la porta del cielo. No, quello in mezzo, quello in mezzo. Oh, scusami, stavo abbassando il treble. Oh, molto meglio, oh, grazie Guglielmo. Quindi niente, Zona Rossa è l'unica trasmissione che riesce ad organizzarsi tendenzialmente durante la sigla. Siamo dei veri professionisti, esortiamo dei professionisti. Che ogni volta che ci viene fatto un complimento noi ridiamo di gusto, ma che voi non avete idea. Perché quando ci viene detto che bravi, come tenete la puntata, noi ci guardiamo e diciamo ma quando mai? Ma non prepariamo niente. Ma cioè, non teniamo nemmeno le borse della spesa. Oggi ci siamo pure presi a botte, cioè nel senso capite che fino a 5 minuti fa Un'altra cosa. Totalmente. Poi entri in Zona Rossa ed è quel momento proprio della giornata, come quando non dirlo. È quel momento che okay, quando lo diciamo dopo. È così, praticamente la scena è stata che alle 18:59, alle 18:43, Lorenzo mi fa: "Oh, ma stasera abbiamo Zona Rossa". sì, tipo. Però lui vabbè, ragazzo occupato. Ma a questo punto se io stacco brutalmente il cavo del tuo computer per metterlo nel mio telefono per fare telefonate, ti distruggo qualcosa. Puoi farlo togliendo il volume del mixer. Tolgo il volume del mixer, ma main, cioè sì, tipo faccio una roba che scompariremo tutto. Un secondo. Per un secondo. Scompariremo un secondo, torneremo subito. E siamo ancora qui. Non hai disattivato l'auto DJ, Guglielmo? No, ma chi se ne frega? No, i Cure suonano sotto di noi, anche loro hanno fatto pressione per essere qua. Grazie, li Cure. Salutiamo. Grazie mille. Ciao, cari. Adesso ciao, potete levarvi ciao, dalle balle. Grazie. Adesso, se la complicità del computer ci assiste, iniziamo con la prima chiamata. Ormai è un classico. Forse tutti quanti vi aspettate questa telefonata. Sì, non indicarmi che sembri tipo la Cappella della Sistina con È successo qualcosa di strano Dio. Al computer dove stai facendo regia? Eh no, ho aperto 75 finestre perché non se ne apre nemmeno una. Sto facendo la prima telefonata comunque. Ma lui ormai se l'aspetta, lui ormai lo sa. Pronto, buonasera. Eccolo, ma come poteva mancare Enzo? Potremmo fare zona rossa solo con te, Cico, sai? Però mi sei sembrato un pochino in ritardino stavolta, eh? Le altre volte mi sembravi un pochino giro, più sì. pronto. Ero al telefono con Miriam in questo momento. Ma guarda, allora, io sono riuscito ad aprire due volte il programma e naturalmente non ho ascoltato quello che ci stavi dicendo. E quindi cosa hai fatto? Ero al telefono, non per quello. Ah, e mi aspettavo la chiamata, avevo già avvisato che avrei dovuto mettere giù nel breve. Però ero al telefono in quel momento. Va bene. Per quello quindi... che c'è stato un attimo di ritardo rispetto al solito. Ah, ok. Cico, un messaggio importantissimo. C'è appena scritto Riccardo e c'hai elenca i nuovi giorni in cui ritirano la monnezza. Attenzione. Cico, io li devo farlo io o lo pubblicità... fate voi? Ci va, vai, no, io segnali, segnali. Perché devi capire che questo collettivo, i cappellini vengono dati anche per queste cose. Quindi lunedì Bravo. Dalle 7 alle 8 ritirano la plastica. Quindi cartone, vuol dire che si mette fuori la domenica sera? Esatto, cartone Giusto. E carta e umido. Cartone e carta ora vanno insieme, Cigo. C'è scritto proprio vanno insieme. Oh, vanno insieme, Cigo. Okay. Non sbagliarmi giovedì, vanno insieme. Giovedì dalle 7 alle 8, quindi quando va messa fuori la spazzatura? Vai. Cigo. Giovedì dalle 7 alle 8, quindi il mercoledì. Bravo! Benissimo. Il vetro, l'umido e l'indifferenziato, Cigo. Indifferenziato. Okay. Senti come fluisce bene, indifferenziato. Dillo, me le puoi ripetere? Ripetilo. Indifferenziato. No, tutto il programma. Ah, ok, vabbè, ciao. Va bene, ciao Cico, vabbè, ci vediamo Cico. Dopo, ciao. Grazie mille. Ciao Cico, è stato bellissimo. Ciao. Bene, andiamo avanti. Fantastica puntata di Zona Rossa che inizia veramente in verticale. Verticale neanche esponenziale, proprio una piruetetica geodetica. Esattamente, voi vi chiederete, ma perché sono così agitati stasera? Perché stiamo facendo un sacco di cose, raga, un sacco di ma cose Ma forse bellissime. Anche troppe. Forse anche troppe, ma non ve le racconteremo perché non ci va. Ma le faremo raccontare a chi le fa davvero. Hanno scelto la bicicletta come loro principale mezzo di locomozione, non perché sono poveri, no, forse anche perché sono poveri probabilmente. Perché gli piace essere poveri. Ma anche per un disgustoso amore verso il pianeta. Adesso sentiamo Quale se pianeta? Non stanno ancora pedalando. Tanto forse ho chiamato la persona sbagliata dei due. Infatti guarda, metto giù e chiamo l'altra. Oh, che è molto meglio. Come è giusto che sia. Come sempre. D'altronde ormai abbiamo capito che c'è una persona e che ha un appendice. Quell'appendice è molto bassa, per cui avete forse già capito di chi stiamo parlando. Beh, non è che lei svetti proprio per altezza. Stavo anche ruttando nel microfono, fantastico. Si può fare, Si può fare. Si può fare. Ci avranno fatto anche delle intere programmazioni musicali. I campionano, i rutti, i film, qualcuno che deve ruttare, deve essere doppiato. Potresti proporti, Guglielmo? Assolutamente sì. Secondo me esce bene. Potremmo fare un film che è un intero piano sequenza in cui alla fine della storia uno rutta. Ciao e Rachele. Bentornata su Radio ZM, Rachele! No! Ma da quanto tempo non ci vediamo e non ci sentiamo, Sei Rachele? Felicissima, vero? Madonna, quanto ci mancavi! Tu dici, è l'unico momento in cui volevo prendermi una pausa? Sì? Raga, che voce riposata che avete. Che vocina? Che voce riposata che avete. Guarda, quest'ultima ora e mezza in cui tu sei andata via da Zan perché avevi finito il turno per le consegne, ci siamo riposati proprio. Siamo io ho dormito, solari, ho sognato. È un piacere questa quarantena. Allora, cosa mi raccontate? No, sei tu che devi raccontare a noi come facciamo le consegne, come si fanno le consegne, che cosa vuol dire consegnare il pacco alimentare di beni di prima necessità. Perché vi vediamo sfrecciare tutti i giorni e abbiamo pensato che aveste qualcosa di interessante da raccontare. Dai, raccontateci. Allora, un attimo che poso il telefono, apro la birra perché mi sono in due mani e poi vi spiego. Vedere, quindi già subito possiamo capire che alcolismo e consegna dei pacchi possono stare insieme, ma non nello stesso momento. Cioè, dopo che hai fatto le consegne, no, ti alcolizzi, giusto? Esatto. Non ti ha detto cosa ha fatto prima, però. Ah, è vero. Allora, la questione è questa, che veniamo contattati. Ma devo spiegare anche il coso del centralino? Ma sì, dai, spiega un po' tutto. Allora, io sono una persona povera e bisognosa, con tanti figli e senza lavoro, da tanto tempo, e quindi chiamo il numero che poi direte voi, perché io ancora non li so a memoria. Il ci numero schifosamente a cui risponde... preparati, ma troveremo il numero. Ma troveremo il numero in fretta. No, ce li abbiamo, okay, i contatti utili, dopo li a diciamo, risponde, però non facciamo una volontaria o un volontario. Ok. Il quale vi chiederà delle domande E poi vi chiederà se rientrate dentro la casistica di povertà assoluta, eccetera, eccetera. Insomma, se possiamo garantirvi questo servizio, vi metteremo dentro a un database dove verrà mandato, che manderà, diciamo, una comanda ai corrieri, sì. Anzi, ai magazzini. I magazzini preparano un pacco alimentare a seconda della quantità delle persone, delle esigenze delle persone del nucleo familiare o comunque dell'appartamento dove andrà consegnato. Vengono, sì, attivati i corrieri arrivano, prendono il pacco, sì, prendono l'indirizzo, sì, vanno in loco, chiamano, yeah, il numero della persona. La persona, oh yeah, scende, o se non ha capacità di movimento, sani, gli si porta fino alla porta il pacco e basta. E avviene il miracolo della solidarietà. Cosa? E così avviene quel fantastico miracolo della solidarietà che giammai è frutto di un intervento divino, ma forse invece è frutto dell'organizzazione del popolo. Quello. Lì. Esattamente. Che meraviglia, l'organizzazione del popolo è veramente una cosa fantastica, organizzazione. Senti questa parola, organizzazione. La novità della giornata, devo dire che mi ha stupito che molti conoscessero chi fossimo, che nominassero bello proprio i luoghi di politica urbana milanese, interessante. Madonna Rachele, grazie. Comunque... io sottolineo il fatto che vi abbiamo chiamato perché vi abbiamo individuato come i più prestanti consegnari, ma anche forse pressanti. Prestanti, esatto, sì, volevo, sì, dire, sì, entrambe le parole, e perché vi vedo sfrecciare nel giro di 10 secondi avete già fatto 4 consegne, ma e quindi vi chiedevo anche questa cosa della bicicletta, come viene vissuta. Ah beh, certo. È ben noto ormai a tutti e a tutte che la bicicletta è il mezzo più rapido nelle grandi città, e la dimostrazione che i pacchi arrivino così velocemente è anche il fatto che sia, nonostante il poco traffico, si mantenga come mezzo iperveloce, iper ecologico, iper economico, insomma, viene in forma, iper. È ecologico, è bella, cioè, sta bici, usiamola. Madonna santa, ragazzi, ma Rachele dovrebbe diventare tipo l'ufficio stampa pubblicitario del mondo. La cosa più assurda è che dalla redazione ci arrivano messaggi di infiltrati delle brigate e ci dicono che vogliono un premio per questo riconoscimento. Le due persone in questione. Ma io ho parlato di Rachele, che è super veloce. Magari Riccardo le sta dietro con una catena attaccata alla sua bici. Esatto. E Rachele tira pure Riccardo. Che come al suo solito, Rachele, nella sua povertà umana e spirituale, anziché politica, certo, giustamente, è soltanto una palla al piede. La rallenta, le chiede, ma non è questo l'indirizzo? Le fa notare cose stupide. Poi vuole cambiare, cioè, i software, non si capisce. Veramente. Dice, guarda, agli altri cosa devono fare. Perché? Cosa non devono fare. Rachele, adesso c'è la stessa catena, la uso per fustigarlo nel caso. Certo. Mi dica no, dai, basta, facciamo l'ultima consegna. No, no. Dai, Riccardo, dai, faremo tutte quelle che l'organizzazione ci ha comandato. Madonna, sono veramente emozionato, tra poco scoppio a piangere. Rachele, prima di farti l'ultima domanda, scegliti una canzone così poi ti faccio la domanda e riempiamo. Ce l'ho già in mente perché la loro maglietta lo sappiamo. Che voi già avete visto. Ah sì, te l'ha giudicata Macio, di quella maglietta orribile, di quella band orribile. Quindi vado? Cosa? Vado a prendere il gruppo orribile? No, cosa? Non ho capito allora che canzone vuoi ascoltare. Voglio andare al mare. Voglio andare al mare. Ma di chi è? Dei due Bucolico. Cerca. Allora vedi che Guglielmo c'era già arrivato. Avevo capito il gruppo, non avevo capito la canzone. Pensa che c'è anche di Vasco Brondi. Sì. Addirittura. Esattamente. Proprio lui. Quindi io ti volevo appunto chiedere, ma tu hai iniziato da poco con questa cosa qua delle consegne, giusto? Io ho iniziato da una settimana e mezza. Ok, e il prima e il dopo? Il quarto giorno di consegna. Proprio di pancia, il prima e il dopo questa cosa. Cos'è cambiato in Rachele prima delle consegne e dopo le consegne? Allora, il respiro, perché devo dire che tenere una mascherina che ti smorza il respiro mentre tu affanni in bicicletta è notevole. Che cos'altro? Riccardo, aiutami. Ah, ma sono c'è... più stanca, ma dai, qualcosa di positivo. Ah, ma si è nascosto tutto questo tempo. Siamo in radio, siamo in diretta. Tanto da dove ti sta parlando? Da uno scantinato. Le endorfine fanno tanto, esattamente. Diventato insopportabile. E Riccardo ne subisce le conseguenze, evidentemente. Bene, la tua musica è pronta. Ti ringraziamo, ringraziamo anche Riccardo per il grandissimo apporto. Che non ne si è sentito niente, però è stato molto molto utile come sempre. Continua così Riccardo, grazie. Va bene, Rachele, è stato bello, ti buon vedremo galoppare ancora in bicicletta. Cosa? Cosa? Buon ascolto amici e amici. Oh, fantastico. Grazie, ci vediamo al mare e quest'estate. Buona conduzione. Grazie, grazie, grazie. Con ardore. Va bene, allora, dopo Colico, la nostra Riders e l'altra appendice che si ritrova vicino e via, ce l'ascoltiamo. A più tardi. Ciao, bacini. A dopo, ciao. Ciao. Voglio andare al mare, sì, che te devo dire? Sono andato al mare con un mio amico, ma c'era troppa nebbia. Ho sentito che gridava aiuto dietro al grande peschereccio, ma i marinai non l'hanno più ritrovato, l'Adriatico l'ha inghiottito. C'è persino chi sostiene che adesso in Croazia è che sta bene, ma resta Jugoslavia, sì, ma che te devo dire? Se ti piace stare lì, che te devo dire? Son tornato al mare col mio cane, ma faceva freddo freddo, la sua coda si è congelata, gli si è staccata dal culetto, poi è arrivata una bufera di neve che ha coperto anche le onde. E il mio cane mi ha guardato con lo sguardo implorante e commovente. Ti riporto a casa, sì, ma prima fai pipì. Poi ti riporto a casa, sì, che te devo dire? Son tornato in spiaggia il giorno dopo con la mia amica del cuore, che mi ha detto ma non era meglio restare a casa a fare l'amore. Io le ho chiesto scusa cara, non ci avevo pensato, e siamo tornati dritti a casa. Ma poi quando l'ho baciata era quasi morta assiderata. La porto all'ospedale, sì, forse meglio sì, magari torna a respirare, sì, che te devo dire? E ora sono solo in riva al mare, ripenso alla mia vita, il mio cane ormai si è suicidato, la mia ragazza mi ha lasciato. Alla mia canna da pesca ha boccato un animale che ha la faccia del mio amico e la coda del mio cane. Ma dove eri stato? Di, ma perché sei così? Ma come sei cambiato? Thank you. grandi sbadigli. Quindi praticamente nel podcast verranno messi in Nirvana. Sì, esatto, esatto, per coprire questo bellissimo, bellissimo pezzo. Ringraziamo Rachele e i Duo. Grazie mille, Duo Bucolico, Duo Bucolico. Grazie Duo Bucolico, ci vediamo settimana prossima, grazie. Ciao, grazie. Ciao. State chiamati qui da Rachele, che a questo punto onestamente vorrei ribattezzare la già coppia Rachele e la sua appendice, vorrei ribattezzarli in Duo Bucolico. Cosa ne pensi? Potremmo chiamare Duo Bucolico, avanti, loro che già, bellissimo. Loro che già addirittura erano il nostro avamposto in esatto. Zona Porta Vittoria. Come succede nelle chat di questi Zoom, queste cose qua, dove l'admin cambia i nomi come meglio crede e molto spesso... Ogni riferimento a cose veramente accadute è puramente voluto. Esatto, i signori vanno sempre in giro in coppia, i signori e le signore, questi due qua, quindi da oggi saranno il duo. Il Duo Bucolico. Il Duo Bucolico a pedali che consegna i pacchi. Gli sta pure bene, se ci pensi ai visi, gli sta pure bene il duo. Comunque, chissà se Dio si sente... Bucolico, chissà se si... Cosa? Stavo dicendo il Duo Bucolico. Il Duo Bucolico, ci stava bene uguale. No, come si sente, Lorenzo, siamo un po' stanchi, siamo stati un po' presi tutta la giornata da altre cose, ma quindi andiamo te, cosa vuoi? Un po' più a braccio del solito. Ma assolutamente no. Lorenzo, la tua opinione non è prevista. E a questo punto, andando completamente a braccio, saltiamo in quel di Bergamo, zona che purtroppo in questo attenzione. Periodo sta vivendo un momento non proprio felice, ma siamo sicuri che lui sarà ragazzo positivo. Naturalmente non abbiamo avvisato nessuno che l'avremmo chiamato. Ciao Francesco! Benvenuto su Radio ZM! Ciao! Ma senti, ti disturbiamo? Oh, ma che bello! Così siamo fastidiosi finalmente. Proprio come ci piace. Dura una mezz'oretta il tutto, non ti preoccupare. Vai tranquillo, ti chiediamo al telefono e se non puoi parlare al telefono ti preleviamo dalla carta di credito, va bene? Abbiamo già i codici. Perché... No, ma non ho mezz'ora. Ma va, no. Va bene, ciao. Comunque al telefono ci sono Guglielmo e Lorenzo. Siamo da Zam, se ti ricordi di noi, ma se ti sei dimenticato fai bene, dopo tutto. E... adesso mi ricordo, sì. E no, sei non me l'aspettavo, in diretta radiofonica. Cosa? Ma siamo in diretta? Assolutamente sì. Pazzesco. Bellissimo. Ci sarà pure un podcast. Quindi tu che fai parte del collettivo Propagazione a questo punto verrai investito dal tuo cervello da una miriade di cose da dire, ma che noi non ti permetteremo di dire perché siamo troppo idioti. È un programma di ok, lo sapete, è vero che sono mezzo sbronzo. Va bene, va benissimo allora. Posso dire queste cose in diretta? Ma allora, senti, per te io ho una sola parola per cui parlare, iniziano un po'. Ermeneutica dell'esistente. Va bene, sì, ci siamo? Allora aspetta che apro il dizionario. Quella. Aspetta, devo cercare un dizionario prima. Dizionario. Dai, allora va bene, facciamo due parole, altre due parole diverse. Propagazione. Vai. E a seguire Aurora. Attenzione. Vai. Allora, le robe non è che sono necessariamente collegate, diciamo no, che infatti, sono intrecciate per un incrocio strano di destini, nel senso che Propagazione nasce come laboratorio artistico aperto, immaginario, sbarioni di vario genere su l'arte, diciamo, l'arte di comunicare. E quindi incontrandosi un po' con il progetto di Aurora e tutta una serie di ragionamenti su quello che è l'immaginario della militanza, uh-huh. Ovviamente i due progetti si sono intrecciati e hanno prodotto insieme non necessariamente qualcosa, però il ragionamento è abbastanza condiviso su quello che è tutto il ragionamento su appunto il linguaggio, che tipo di linguaggio utilizziamo, come utilizziamo quel tipo di linguaggio, un certo tipo di immagini, di immaginario appunto. Sta diventando una cosa troppo seria. No, assolutamente. Veniamo subito a salvarti. Allora, in realtà noi da bravi incapaci della radio non ti abbiamo nemmeno presentato. Quindi in realtà Francesco del collettivo, presentati da solo perché non c'è motivo che io ti venga a presentare. Del collettivo X, in realtà, diciamo che sono esule da tutto, visto che sono scappato dalla mia terra natia. Però diciamo che mi seguo per Propagazione a distanza, sia nella sezione bergamasca sia nella sezione fiorentina, e questo è quanto. Cioè tu praticamente sei scappato da una terra con un accento molto forte per finire da un'altra parte con un accento molto forte, e adesso vorrei sapere in che deve essere bullizzato per avere un accento molto forte, ma non quello giusto. Tu praticamente parli mezzo fiorentino a Bergamo, e quando vai a Firenze invece sembri un bergamasco. Esatto. Fantastico. Beh, in realtà io ti ho conosciuto non da tantissimo, in realtà, quindi forse questa telefonata è anche fuori luogo, ma va bene così, chi se ne importa. È un programma fuori luogo. È un programma tendenzialmente fuori luogo. Ci siamo chiamati fuori luogo perché ci sta. Già. Esatto, noi ti abbiamo chiamato più che altro perché volevamo un po' menarcelo e fare finta di sapere qualcosa di comunicazione, dopodiché io di comunicazione non so niente. Io un po' ma perché più, secondo però, voi io so qualcosa, è tutta fuffa. È tutta fuffa. Però sono bravo a venderla. Ok, va bene, allora direi che siamo in ottima compagnia. Esatto. No, la cosa che mi interessava appunto prima è che nell'immagine di propagazione, nel simbolo, c'è un'antenna ad una radio, se non sbaglio. Che ci piace. Ma non è vero. Non è ma vero. Ma quando mai? Ma scusami, cosa c'è nel simbolo di propagazione? Ma che simbolo? Ma scusami, il simbolo di propagazione, c'è la freccia dentro l'antenna. Ma che antenna? Niente, questa telefonata non c'è nessuna antenna. Cosa avete fumato prima di fare questa conversazione? Noi non fumiamo niente perché siamo dei ragazzi salutari, però siamo abbastanza deficienti da sembrare sotto effetto di stupefacenti. Ma sì, invece, dato che... Ma perché dovrebbe esserci un'antenna? Cosa? Perché dovrebbe esserci un'antenna? Ma figa, adesso lo cerco su internet e vuoi scommettere che trovo che c'è la simbolo dell'antenna? No, non è vero, non c'è il simbolo dell'antenna. Non c'è! Mi fanno cenno dalla regia che effettivamente propagazione rompe il cerchio, è una matita, non è un'antenna. È una matita, certo che è una matita. Allora, ma perché mi sto confondendo con il simbolo di radio onda d'urto? Vabbè, è una radio, dai, quindi no, potrebbe vabbè, esserci no, un'antenna. Non è vero. Figura barbina, ma va bene così. Ascolta, ma fammi salvare in corner malamente, anche se non è possibile. Si avvicina il 25 aprile e c'è un progetto comunicativo di Aurora che io penso forse si possa raccontare, se non si può raccontare semplicemente diremo che è top secret, che riguarda ovviamente l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. Sì, cioè, in realtà non è top secret nel senso che sta uscendo, forse le prime cose stanno uscendo oggi. Oh, ce lo vuoi, hai voglia di raccontarcelo? Allora, è un'idea che è nata a Roma in realtà, che okay. È un po' più il centro di questi ragionamenti, diciamo, di immaginario. L'idea era appunto quella di rappresentare un fiore per ogni città, cioè mantenendo la stessa impostazione grafica, lo stesso ragionamento su quello che è il collegamento tra la situazione di adesso, il ricordo, la resistenza, legando però con un utilizzo di una cosa coordinata tra tutte le città aderenti al progetto Aurora e di conseguenza a, diciamo, questa campagna sul 25 aprile che è appunto l'utilizzo di questo fiore che varia di città a città. Mi sembra che Milano ha scelto la rosa, giusto? Cioè Zam ha scelto la rosa. Sì, giusto? Confermiamo. Sì. E altre città tipo su Bergamo e su Brescia si pensava di utilizzare la stella alpina, eccetera, e via discorrendo. Però appunto mantenendo questa roba molto pulita sul concetto di classico proprio riferimento storico di immaginario al fiore del partigiano e di collegarla a tutta una serie di azioni assolutamente simboliche dovute alla situazione. Visto il periodo, sì. Esatto, perché non è che si possa fare più di tanto. E diffondere questo appello al tentare di costruire questo percorso di resistenza da un lato quella storica e dall'altro quella di una resistenza quotidiana di questo periodo difficile, comunque difficile non definirlo così. E niente, poi non specifico cosa no ma era questo che ti volevamo chiedere, perché nelle settimane passate abbiamo sempre chiamato Carlos a Roma per le compagne il certo, collettivo certo. Roma Est che salutiamo esatto, torna ciao Carlos a chiamare. Come? Niente, salutavo anch'io Carlos che non sento mai tra l'altro vedi invece devi ascoltare Radio ZM che così lo senti almeno una volta a settimana. Ponte. Siamo pontissimi, siamo questi genio pontieri. Esatto. Ma genio noi forse un po' poco. Solo di fianco la esatto. E i ponti che crollano, poi vabbè, allora si capisce molto meglio. Ma a questo punto la domanda più importante di tutte: birra o Camparino? Campari tutta la vita. Attenzione. Vi faccio la ricetta. Aspetta, non è la ricetta, è la filosofia vera del Campari che c'è dietro. Vai. È la logica del Campari in due, ok? Sì. Campari, parentesi, non Campari bottiglia grossa, ma Campari bitter, certo, triangolino, sì, con il classico soldatino. Sì. Uh-huh. Dividi in due, fai due bicchieri, rabbocchi col bianco, a voglia, se piace, con l'arancia oppure no, e a un bassissimo prezzo si ha un rapporto alcolismo-spesa che è decisamente vantaggioso. Abbiamo preso appunti. Complimenti. Abbiamo preso complimenti. Appunti. Questa cosa verrà stampata e plastificata e messa giù al bar. Esatto. E la cosa divertente e importantissima è perché non è il solito aperitivo, perché il fatto di dividere e condividere questo aperitivo crea delle dinamiche di socialità che il cocktail normale che bevi da solo non crea. Madonna, guarda, siamo meraviglioso. Stiamo sudando. È proprio il cocktail proletario vero. È perfetto. Questa cosa è meravigliosa, cioè inventarsi una scusa politica della condivisione, cioè, da pur di rialzarsi, è qualcosa che ha da essere rispettato. Ci piace, Certo. Dovrebbe essere importato ed esportato in tutto il mondo. E la cosa divertente è che negli Stati Uniti il Campari è illegale. Ma come mai? Ma cosa, davvero? Sì, per la cocciniglia, anche l'uovo Kinder, quelle cose lì. No, non ho capito. Anche l'uovo Kinder. Ma che cosa vuol... perché? Perché c'è dentro la plastica e i bambini se la mangiano. Ah, hanno i bambini intelligenti in America, effettivamente. Sì, hanno deciso di vietare queste cose. Comunque, fondamentali per l'esistenza. Aiuteremo questa ricetta a viaggiare per i continenti e a propagarsi tra i compagni e le compagne. Fra meno di 3 mesi ci aspettiamo un'epidemia. Saremo tutti ubriachi. Ha un nome questa ricetta, ha un nome questo drink. Campari in due. Prima c'era il duo bucolico, poi c'è il Campari in due. Noi un cervello in due, ma bomba. Sì, c'è anche la variante col rosso, che però il terzo è allucinogeno, davvero non esagerate, perché ha allucinazioni pesanti. Quelle per le serate importanti. La prossima volta che ti chiamiamo ce lo dici. Va bene, allora io a questo punto lancerei l'ennesima promessa, proclamazione di questa radio, anzi di questo programma. Fine della quarantena, pasta asciuttata a Zam, e c'è anche la camminata che parte da San Siro, la nostra amica Paola, e arriva Francesco che ci viene a fare Campari in 130. Guarda, e gli diamo una vagonata di Campari in litere bianco come se piovesse. Francesco, 130 ad oggi, nel senso che il numero 890, esatto, probabilmente. Cioè, noi abbiamo aperto 130 ad ma oggi. Ma meglio. Bene. Ci sei tu a servire Campari come se piovesse? È un diluvio. Ma verrei in questo momento. In che senso? Cosa sta succedendo? Se potessi, verrei in questo momento a farlo. Ah, okay. Fra, ma una colonna sonora che ti immagini per questo momento di condivisione di bevute in due, così? Una canzone che vorresti dedicare a questo momento? Beh, è sempre peggio. Hanno fatto del Campari abbastanza un loro stile di vita e un motto esistenziale, quindi direi che una canzone loro potrebbe andare. Com'è che si chiamano? Sempre peggio. Hai sempre peggio, scherzando, sono di Milano. Devo capire un'altra cosa. Al bar di Gola o quale? Ma non saprei. Bar di Gola, famosa, sì, ci sta. Però anche Digos, non niente male. Va bene. Ti vedevamo così, già in clean. In freschezza. Va bene, no, perché devi sapere che noi abbiamo questa pessima abitudine, no, che in realtà è una cosa fantastica, che qualsiasi telefonata finisce con la musica scelta da chi abbiamo disturbato. Questo è il nostro... Va bene, allora direi di salutare gli amici e compagni e le compagne di Via Gola. Bravo! Mi sembra giusto. Assolutamente. Va bene, però adesso dobbiamo inventare qualche altra cosa. Lo so io. Vai. Francesco, qual è la cosa più assurda che hai visto da quando è iniziato tutto questo? Probabilmente troppe volte il mio soffitto. Sta assumendo delle forme veramente strane. Una solitudine importante. Mi è piaciuta come risposta. È assolutamente nessuno con cui condividere il Campari. No. Ma cosa fai? Fai due bicchieri e poi bevi anche il secondo? A quel punto ne fai solo uno. Ma guarda, considerando che sto ordinando addirittura due pizze alla volta per fare finta di essere in compagnia, direi che più o meno il livello è quello. Dai, va bene, allestisci tutto per due persone e poi però ti siedi dall'altra parte e bevi e mangi quello che c'ha l'altra persona. Esatto. Perfetto, meraviglioso. È come giocare a scacchi da solo. Esatto. Solo con l'alcol e con la pizza. Fantastico. Va bene, carissimo. Grazie. Ti ringraziamo. Ti richiamiamo anche. È una minaccia questa. E lo facciamo, Assolutamente. Bellissimo, sempre inaspettati, mi raccomando. Assolutamente. La prossima volta deve essere 5 del mattino, va bene? Perfetto. Fantastico. Ti faccio sentire la mia vicina che canta lirica. Oh. Alle 5 del mattino, interessante. Ma perché lo fa? Eh? Perché canta alle 5 del mattino lirica? Ma che cazzo ne so, che problemi ha? Allora, sai cosa devi fare? Da ora in avanti proponi alla tua vicina di casa di ascoltare Radio ZM quando c'è zona rossa e andrà tutto meglio. Mi sembra una buona idea. Mandiamo un podcast direttamente alle 5 del mattino. Esatto, esatto. O chiamiamo lei alle 5 del mattino che ci canta la lirica, che poi chiamiamolo Francesco e gli facciamo ascoltare tutto. Va bene, carissimo. Smettiamo di importunarti. Buona serata, buon ascolto. Ciao, ciao, buon campare in due, da solo. Ciao, ciao, ciao. Fatti bravi, ciao. Mi raccomando, La scelta di Francesco di Propagazione, compagno validissimo di Aurora, dico sempre peggio. E attenzione, attenzione, parte un treno adesso che proprio... Ciuf ciuf! Ci siamo, ci siamo. Radio ZM, bentornati, bentornate. Zona rossa. Io sono molto contento perché noi andiamo di pari passo dal 9 marzo. Sì. Dal 9 marzo, quindi contiamo i giorni che ci separano dal 9 marzo, saprete che puntata siamo. Ma abbiamo già perso, tra l'altro, il conteggio, non lo sappiamo più che puntata siamo. No. Ma loro lo sanno, loro o lui, sta in un centro sociale molto attivo in questo periodo. Lo andiamo a prendere. Se ci risponde al telefono. Adesso io vedo già che, avendo noi avuto un'idea malata e perversa, succederanno cose tristissime, tipo la gente non ci risponde al telefono, ci richiama dopo, sì, arrivano ci messaggi, a quel paese. Benvenuto nel servizio. Ecco, risponde sempre la Vodafone invece. Va bene, allora vabbè, parte al secondo. La cosa bella è che Zona Rossa deve avere un campo radioattivo particolare per cui noi chiamiamo, e la gente che non ci risponde non è che ci richiama. Non è che succede che interrompono la cosa bellissima semplicemente... che stavamo dicendo e dici che ci richiamano. Non lo fanno perché forse hanno capito. No, che forse chiamano, cioè sono io il numero che chiama, quindi la gente mi dice ma che, perché devo rispondere? Cazzo, è vero, madonna, non ci avevo pensato. Dai, io ho riparato il jack, cambiamo numero, bravo, telefono. Ripariamo dal suo. Infatti sì, vedi, sì, mi sta richiamando, mi ha appena richiamato. Chi? Adesso non mi risponderà, quello di prima. Adesso beh, questo non mi risponde. Questa qua e risponde a quello di prima immediatamente. Ma non posso, mi è già arrivato il messaggio. Ah, ok. Ma adesso ci scommetti che richiamo l'altro e questo qua mi chiama dicendo io che ve l'ho non trova niente. Che partiva un treno che treno non immaginavate. Pazzissimissimissimo. Come vai. Si sa, è un treno, se hai di Trenitalia può avere soltanto che ritardi e interruzioni. Ma adesso forse i treni arrivano in orario perché non portano nessuno. E attenzione. Pronto Gulli. Benvenuto a Radio ZM Zussino. Sei in diretta. Sono in diretta, ciao compagni, come state? Bene te? Esatto, benissimo. Bene. Ma ascolta, allora... ma tu sei in quella di Via Edolo per caso? Sono proprio qua. Oh, che meraviglia. Devi sapere che noi siamo un programma fondamentalmente inopportuno, quindi adesso ti chiederemo senza averti ragazzi, avvisato. Ragazzi, siamo in diretta, Siamo in diretta. Aspetta che attacco il telefono che mi si spegne. No, è una cosa solo tra noi e te. È una cosa personale. È solo tra noi e te. Non ampliamo così subito. Mica vi chiamiamo tutti, mica vi chiameremo in altre persone, cioè chiamiamo solo te, uno per tutti. Esatto. No, dico che ho l'1% di batteria. Ah, ok. Va bene, e allora dai, godiamoci questo 1%. Cosa state facendo lì a Lambretta con la brigata Lena Medotti? Guarda, attualmente siamo appena rientrati dopo aver distribuito le mascherine nelle case popolari. Oi. E adesso siamo appena arrivati e stiamo scaricando le macchine con le raccolte delle spese donate dalla gente che abbiamo raccolto davanti ai supermercati. Le stiamo scaricando mentre carichiamo, appunto, organizziamo, ridistribuiamo i prodotti nei bancali del magazzino. Avete posto da fare, insomma, fino a tarda sera. Sì, assolutamente. Mentre la cuoca qua dell'Ambretta, ovvero io, preparerà la cena di stasera, che il menù di stasera prevede pasta con pesto di fave. I nostri responsabili del magazzino comporranno tutte le cassette che poi andranno distribuite alle 400 famiglie circa che hanno contattato oggi il centralino. Mamma mia, confermiamo, perché qua c'è un membro presente del centralino, un centralinista. Oggi il centralino è andato in fiamme, ragazzi. Esatto. Bellissimo. Da quello che ho capito, centralino on fire. Praticamente le 400 appena dichiarate sono poi a sommarsi alle 500 solo di stamattina in tutta Milano, solo stamattina. Verso mezzogiorno, qualcosa del genere. Quindi ho appena sentito un clacson. Sì. Quindi può essere che dei compagni del collettivo ZAM stiano venendo qui a recuperare del materiale, può essere, o forse sono i compagni della Camera del Non Lavoro, non lo so. Secondo me sono quelli e quelle della Camera del Non Lavoro, perché quelli e quelle di ZAM sono tendenzialmente abbastanza tutti qua, quindi chissà. Ah, ok, perfetto, allora vi saluto tutti. No, salutiamo tutti, ovviamente. Pugno chiuso. Ma bravissimo. Però Zussi, noi ti conoscevamo anche come una persona un po' come l'idolo della festa. Adesso va bene, di feste non se ne possono fare. La tua dote come DJ e aizzatore di folle non è in questo momento la cosa che puoi esprimere di più, ma sì, ti vogliamo comunque bello fresco come sei sempre. Dici qualcosa da Zussino, come se fossero le 4:30 del mattino, una serata trash. Allora, io posso dirvi intanto che comunque qua la festa va sempre avanti, nel senso che abbiamo come cartello dell'amore abbiamo lanciato l'hashtag trash dal balcone. Invitiamo tutti quanti a puntare il proprio subwoofer contro i vicini, quelli che vi stanno più sui coglioni. Perfetto. E sparare la musica più trash che conoscete. Music attack, ci sta. E anche qui all'Ambretta comunque facciamo lo stesso, magari mettiamo canzoni più nazional popolari per non litigare troppo coi vicini. Esatto. E niente, comunque vi lancio una chicca. Ovvero abbiamo già deciso, abbiamo stabilito nel soviet del cartello dell'amore, che appena finirà questa brutta situazione, sì, ci ritroveremo a festeggiare insieme alla festa di fine contagio. Perfetto. Allora, dato che un po' abbiamo comunque timore del quantitativo trash che vi portate appresso, noi vorremmo invitarvi non a fare qui la festa di fine quarantena, ma a una serata successiva, così sfogate, sparate le cartucce migliori trash, le sparate per i fatti vostri, ma vi invitiamo alla pasta asciuttata cui abbiamo appena invitato con compagnia di Bergamo. Venite a mangiarvi la pasta asciutta e a mettere 4 pezzi, non di più, quando faremo la pasta asciuttata di fine quarantena. Si parla di 2.000-3.000 persone, 380 kg di pasta. Io non sono così rigido, e se Norberto ci sta ascoltando sarà molto contento. Per me trash dall'inizio alla fine, altro che 4 pezzi, ma dove sono i 4 pezzi? Comunque, Zussino, mi raccomando, adesso ti faremo una domanda che è veramente molto, molto, molto importante. Ma davvero importante. Fondamentale. Devi scegliere una canzone che verrà trasmessa in radio adesso. Aia, raga. Dacci il tuo peggio. Dacci il tuo peggio, Zussino. Ci fidiamo di te. È una domanda che facciamo a tutti e tutte. È un regalo questo che regaliamo la musica. Ma da te mi aspetto il peggio, veramente. Ma io, guarda, vi dirò una canzone che vi lascerà l'illusione di un'estate che non vivremo, ovvero l'estate sta finendo, esatto, dei Riviera. Di Riviera. Come? L'estate sta finendo. Ma buon ascolto. Ma qualcuno ce l'ha già fatto di Righeira? Ah, ok. Effettivamente un grande classicone delle serate trash. E vi mangerete le mani. Che meraviglia. A questo punto però Lorenzo ti parlerà per qualche minuto o secondo. Potrei dire anche un tuo culo. No, questo si può dire che è sessista. Trash sì, sessisti mai. Dai, anzi, omofobico. No, fondamentalmente, intanto che Guglielmo pesca dal cilindro del database radiofonico infinito... No, non pesco niente, sto chiamando Righiera, gli sto dicendo tu adesso me la fai live e zitto. Ma che poi si affezionano, vogliono tornare qua di là, insomma... Zuzzino, mi raccomando, ascolta Radio ZM, che facciamo bene alla salute, siamo più importanti di tutto. Certamente. In questo momento virale, cioè è necessario. E ti dirò di più, perché senza saperlo, ma anche noi in qualche modo stiamo cercando di intresciare il più possibile lo spazio mettendo in filo diffusione la radio in tutto ZAM, Zuzzino, tutto ZAM. Potrebbe sentire presto Righiera. E ti dico che la notte è un momento bellissimo per proporre un bel programma radiofonico trash. Pensaci. Nelle notti insonni in cui comporremo i pacchi alimentari, pomperemo. Bravo, radio, potete pompare live in diretta qui da noi la trash. Esatto. Questo era un invito, esatto. In ginocchio non si è visto perché siamo in radio, però pensaci, pensateci. Grazie mille per questo supporto psicologico a tutte le persone che sono in quarantenate a casa. Sì, noi chiamiamo tutti a raffica. Buttarsi dal balcone. Esatto. Grande. 3 ore così. Va bene, caro, grazie mille e avvisa gli altri della Lambretta che forse torneremo. Adesso, e qui ti salutiamo. Pump up the volume. Dai. Ciao. Ci sintonizziamo. Ciao, ne. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu. Allora, c'è uno dei due redattori di Zona Rossa che sta ridendo come un pazzo. No, la volta che ho riso come un pazzo era la puntata di Maya. Lì esatto, mi stavo preoccupando per il mio futuro radiofonico, poteva finire in quel momento lì. Ma Allora, dovevamo richiamarla, secondo me, ma la richiameremo. No, ma la richiameremo, ma poi Zona Rossa, secondo me, il giorno che ci gira fino a mezzanotte va. Tranquillamente, ma non è un problema. Anche perché poi ci hanno detto, mi raccomando, non trasmettete più a quest'ora, perché se vi ascoltano in pochi è solo colpa della fascia oraria. Certo. Cioè, ovviamente, bueno, il contenuto c'è, il format è valido, Linus, Cecchetto, tutti gli altri ci hanno già contattato. Righiera in mail. È andato, esatto, via, ci ha ringraziato. Mi dico le band che suonano tutti i giorni in questo spazio e chiedono spazio. Non le dico, ma vado a chiamare una persona che ne sa un sacco di musica. Mi piace così quando, sì, via, ti sei lanciato. Sì, io non voglio parlare di musica, ma questa persona può parlare bello di musica. Zona Rossa, comunque, che saltiamo sul treno e poi cambiamo, perché siamo così. Attenzione, benvenuta su Radio ZM. Buona, oh mio Dio! Buonasera. Non si sente una mazza, fratello mio. C'hai un telefono che fa schifo. Esatto. Parla di altre. È arrivata. Devo stare immobile. Ti sentiamo. Ciao Gia, come stai? Sì. Ciao, bene. A parte che mi chiamate a tradimento. Non sento il mio eco tantissimo. Mi raccomando, non prenderla seriamente, perché questo è il programma Idiozia. Di, okay, serio non ha nulla. Ma è il mio programma, quindi. Guarda, ci stavamo pensando avere un partner in crime. Non ti illudere, radio. Non è così facile essere stupidi come noi. Esatto, potresti rimanerci male nel giro di un'ora. Anch'io lo pensavo. No, ma ragazzi, io mi sento malissimo. Oh. E poi sento anche me stessa tipo dopo un secondo. È fastidiosissimo. Cioè, tu ci senti dal telefono in ritardo di un secondo? Sì, sono tipo due gesti che è 27 di voi. Non lo so, possiamo provare a richiamarti. Ti chiamiamo dal mio telefono? Potrebbe, sì, essere un po' più WhatsApp, no? Tanto ormai la sorpresa c'è stata. Esatto, quindi adesso ti richiamiamo. Dai, hai qualche secondo prima che noi ti vediamo ad importunare. Preparati. Non sarà così facile, okay, la prossima volta. Arriviamo. Ciao. Allora, quindi. In tutto in diretta, senza, vabbè, staccare io i microfoni. Ho provato a ripararlo. Poi in realtà non ha funzionato. Mi dispiace perché poi. Insomma, ogni volta Guglielmo che chiama. Allora, poi... se mi dai il jack, facciamo così, così non assordiamo i nostri ascoltatori. Subito. Io dovrei averci il numero e si va. E si va, e si va. Va bene, lei è una compagna che sta popolando le notti della trash come chi l'ha preceduta, come Zussino. È anche artefice delle colonne sonore del programma delle Ribelli. Oh. Buonasera di nuovo, Jessica. Eccoci, adesso sì, bene. Meglio? Sì. Fantastico, allora abbiamo scoperto che il mio schifoso telefono di un'azienda sudcoreana è meglio del tuo schifoso telefono di un'azienda cinese. Perché io ascolto troppa musica, Guglielmo, al contrario tuo, quindi ho sfondato il jack delle cuffie. Madonna santa, quanto, sì, sei forte. Sì. Ma qui di musica ne sa qualcun altro, ne sa qualcun altro di musica, vogliamo parlare un attimo? Aiuto, allora, aiuto, voglio, ragazzi, esortare un attimo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, noi stiamo facendo una corte spietata a questa persona perché venga a proporre un programma in radio, questo penso lo abbia capito. Un programma elegantissimo, cioè, esatto, di musica classica, musica colta. È un programma elegante tipo sabato sera, Zam, serata trash, Andreone, Lady J, una roba elegante così. È una roba, sì, elegante così più o meno, gran gala dell'ignoranza, ecco. Ma va bene. Io pensavo il mercoledì mattina alle 8:30, invece in after. Una cosa sì, una cosa tranquilla, dai, va bene anche per cena comunque, come, sì, va bene anche per cena, certo, come facciamo noi. Le cene in solitario in quarantena, belle. Esatto. Ma senti, allora, iniziamo dalla base, siamo all'orario aperitivo, siamo quasi alla pericena, cosa mi beve la DJ? Cosa mi beve? Certo. Un prosecchino, perché ho finito l'Aperol. Oh, ha già finito un Aperol e via, si va di prosecchino. Questa puntata a sta diventando alcolica in una maniera incredibile, a caso completamente. Oh, signor. Salim, proteggimi. Sì. Niente, perché c'è un'altra persona con la DJ, no, presente. È difficilissimo farsi le sigarette mentre vi ascolto e mentre parlo di prosecco. È veramente difficile, ce la posso fare. Pensa che prossimamente dovrai farti le sigarette, berti prosecco, parlare con noi e mettere la musica pure. Perché a questo punto noi cancelleremo completamente la nostra base musicale e vogliamo la DJ che ci mette le basi mentre parliamo. Ma voi siete matti, io non sono pronta per questa cosa. Tra l'altro sapete cosa stavo per fare in questo momento? Sì. Dici? Io stavo per chiamare le vostre compagne delle Ribelli, le mie Ribelli, perché dovevamo avere una call. Ah. Ma mi avete interrotta, maledetta. Esatto, ma perché esatto, già non lo sa, è il programma inopportuno e sabotiamo anche gli altri programmi della radio. E dopo lo dirai, dopo lo dirai, perché noi lo rivendichiamo. Zona Rossa mi ha fatto perdere tempo. Sì, perché noi siamo soltanto una perdita di tempo. Quindi non lo sapevamo e ci fa piacere che abbiamo lo stesso dato fastidio. Non ti preoccupare perché la call sta iniziando, perché vediamo la nostra compagna Giulia che nelle varie chat chiede gli accessi a Zoom. Quindi ti stai perdendo l'inizio, ti farai desiderare come è giusto che sia, perché la tua musica parla prima di te. Perché lei è la DJ. Perché tu adesso sei qua ospite, ma tu sei già stata qua in questi canali e vogliamo capire perché. Perché gli ascoltatori e le ascoltatrici non hanno mai sentito la tua voce probabilmente. Ma meno male. Quindi dici, raccontaci come sei entrata nel turbinio di quella che è Radio ZM. Allora, sono entrata in questo turbinio un po' perché mi ci sono messa da sola, perché sono, siccome ho 10.000 robe da fare, se facciamo 30 facciamo anche 31, quindi 10.000 uno va bene, va benissimo. E siccome la compagna Giulia, mia amica eccetera, mi ha chiesto di aiutare nella, non nella stesura delle, delle cose, delle, insomma, no, dare una, mezzo, un aiuto musicale, dare un aiuto musicale, ecco. Oh. Un aiuto sul, sulla, non so, non so come dire, il prosecco. È prosecco, un aiuto sul prosecco, prosecco. È il prosecco, sì. Comunque sì, aiuto per la musica, diciamo, a tema. Ogni volta cambia e quindi ogni volta sono lì che studio un pochino, cercando di fare delle cose con un senso logico, ecco. Allora, noi dobbiamo essere onesti e sinceri, la questione è questa. Noi che siamo brave, oddio, persone sincere, di strutture generose, ascoltiamo le ribelli, non mettiamo le call mentre gli altri fanno i programmi, ma non sono un bocciatore alcoroso, non è che me la sono presa, no, no? Quindi sappiamo benissimo... Sappiamo benissimo che tu metti delle gran colonne sonore che piacciono moltissimo a chi conduce, perché sembra che ci sia questa telepatia magica per cui riesci sempre a dare la colonna sonora giusta alle cose che vengono dette, e questo si deve sapere. È incredibile, io confermo. Confermo questa meno tesi. Male, perché poteva essere anche prevedibilità, troppa prevedibilità, e quindi cioè lì cade tutta. Guarda, le DJ veramente, e c'è tanta di quella umiltà in questa donna che sta arrivando fisicamente qua in radio. Madonna, però io, al contrario di Guglielmo, non voglio avere problemi, quindi ti esorto a tornare alla tua call, scappare, perché ci hanno già mandato dei messaggi minatori. Cioè, guarda, la DJ è fondamentale, la DJ non può mancare. Ma, aiuto, sì, ecco, magari bere meno prosecco la prossima volta. Però è bello questa cosa un po' inaspettata, mi è piaciuta. Siamo fatti così, siamo spropositati e inutili e capiamo. Scegli una canzone della tua playlist a caso, sono già qua. Oh, è vero, è vero, non c'è bisogno. Ho fatto delle playlist che si chiamano le DJ 1 Select. Madonna, 2, 3, 4, 5, le DJ ti amo. No, scusa, questa non dovevo leggerla, scusa, ho sbagliato, Lorenzo. No, dicevi? Ma non posso rovinarvi i piani, perché state mettendo una mia playlist adesso. Cosa? Non ho capito. No, non state mettendo mie playlist. Ma adesso non ci azzarderemmo mai. Ma figurarsi. Ma assolutamente. Ma ci mai... Vanno no, in riproduzione casuale. Io. Vanno in riproduzione casuale durante la notte, lo sai. Esatto. Perfetto. Però scegli una canzone tu da mandare ora. Allora, io voglio una canzone che oggi tipo me la sto ascoltando da 24 ore. Sì? Si chiama Goldfire di Santi Gold. Ce l'abbiamo. Probabilmente Lorenzo, mi stai spaccando un braccio, cioè mi strattona, stai picchiando qualcuno, lì, sì. Non lì, là. Donna, è impossibile gestire la regia con lui di fianco. Scusami Jessica, ripetimi il titolo della canzone gentilmente. Santi Gold, cioè. Minchia, niente, la dice lui. La vuoi far parlare sta ragazza o no? Cosa l'hai chiamata a fare? Santi Gold, Disperate Youth. No. Qua no, c'è, no. C'è persino chi dalla piccionaia mi commentano. Quindi cosa sta succedendo in questo basta programma? Ricato, siamo di fatto perfetto. Dopo 7 minuti mi vado a rifare quello che stavo facendo prima. Jessica, ma com'è lì il tempo da te? Allora, il tempo qui in Giordania si sta bene. E invece no, al posto di rispondere alle domande stupide di Guglielmo che non hanno proprio senso, ma lui ci prova lo stesso. Rispondi le tue. Ma quindi non ho capito di Santi Gold. Ripetigli Fire. No, Santi Gold, spazio. Devo farvi lo spelling. No, ci arriva. Scrivi Fire. Gold Fire. Fire. Before the Fire, Santi Gold. No. No. Fuoco d'oro, fuoco dorato. Wildfire. Quindi la domanda che volevo farti, intanto che Guglielmo prova a trovare la canzone. Non bestemmiare troppo. Qual è, Gè, la cosa più assurda che hai visto da quando è iniziata la quarantena? Che ho visto? Che hai visto, che hai sentito, che hai visto anche su internet. La cosa che dici che ti più attratto, cioè non per forza brutta, la cosa più assurda che dici, no, ma davvero? No, assurda non lo so, cioè assurda forse è il mio lavoro, però non vorrei tediarvi con fermi cose tutti, che lavoro fa la DJ nella vita? Di cosa stiamo parlando? Faccio la grafica e per ora sono in cassa integrazione, non dovrei lavorare ma sto lavorando a tempo pieno non pagata sostanzialmente, o comunque pagata dallo Stato, quindi sto auto smicciando che i miei casi stanno evadendo il fisco, ma non importa. Ma Radio ZM evade un sacco di cose. No vabbè, ma i miei capi hanno bisogno di avere una bella registrata, quindi va bene. Bello. Vuoi fornire anche il codice fiscale? Non so, vogliamo fare una cosa più... Se vuoi sotto banco... Ma sì, ma perché no? No, comunque una cosa bella che ho visto ieri, che ho detto cazzo, che io non ho la televisione a casa, però sono tornata in provincia e ce l'ho, e ho imparato come si fa ad accendere, perché non lo sapevo fare. E ci sono troppi tasti sul telecomando, io sono rimasta negli anni 90. E praticamente è come se si fosse frizzato tutto il palinsesto degli anni 90 veramente. Ieri ho visto la Tata, raga. Ma veramente, la Tata, ma che bello. Francesca Cacace. Francesca Cacace, fantastico, ha colorato le mie elementari. Cioè, ragazzi, io sono un idiota e va bene, però veramente la Tata mi sembra eccessivo. No, ragazzi, la Tata è perfetta, è quello che vorrei essere io. Ah. Cioè, era la donna più bella del mondo quando ero piccola. Cioè, per me, quando io l'ho vista, se andava adesso male. Sai cos'è? Che io sono rimasto perplesso quando poi anni dopo ho conosciuto un compagno che veniva dalla ciociaria, te lo diceva con orgoglio, ho detto, ma come la Tata? E lui che ormai era abituatissimo a questo riferimento squallido da un po' più media mainstream, mi sorrideva però proprio gagliardissimo, mi diceva, è proprio sì, come paese della Tata. Vabbè. Niente, certo. Mi fanno certo di tagliare perché sennò qualcuno taglierà la nostra testa. Zona Rossa è un programma idiota e anche pavido, va bene così. Gè, mi raccomando, il programma, ti aspettiamo. Assolutamente. Assolutamente sì, grazie, dai. Grazie per Santi Gol. Abbiamo fatto 10.001, faremo 10.002. Dai. Ma che ci fregano noi. Va bene, allora noi ci ascoltiamo la tua canzone, se riesco a trovare il tasto giusto perché devo premere un paio di cose, facciamo un dissolvi ora. Grazie mille alla DJ, la sentiremo presto. Ciao. Ciao Mori. Ciao Ne. Ciao. Ciao. What I tell you, if I can see no way, dare I bore you, I'd come for you, rally you, I'd say, let's go forward. Zay. meno male che questa trasmissione ha degli ospiti di valore. Ma veramente, anche perché altrimenti penso che ci avrebbero già fatto chiudere da un pezzo. Ma sì, i nostri compagni e le nostre compagne. Non so come, ma sicuramente, cioè, sarebbe discusso tutto in assemblea. Zona rossa deve sparire. Deve morire. E invece abbiamo usato la scusa della telefonata per rimanere sintonizzati con voi. Ma tu ti ricordi quel film che si chiama Misery non deve morire? Certo. Noi siamo così miseri che non dobbiamo morire. Cioè, questa la vorrei che comparisse in alto da qualche parte nel cielo e fosse, mi fosse dedicata per sempre. Se in Bolnino ha sentito questa freddura. Servizio gratuito. Resta in Cioè, quando chiami te, c'è la Vodafone. Ma cosa stai dicendo? Questa cosa me la devi proprio spiegare. Ma vabbè, vediamo allora se lo troviamo subito. Un altro nostro fantastico DJs. Se non lo troviamo, no, ce l'ho. Sono sicuro che lui. Tanto, sai cosa? Con lui il livello alcolico potrebbe alzarsi paurosamente. Quindi abbiamo deciso proprio di dedicare questa puntata a Bacco. Questa serata qua è l'alcol. Bene. E noi non beviamo. È un rapporto strano tra l'alcol e il divertimento. No, noi siamo straight edge ormai. Scusi, una birra. Ah no. Era Fergi. Però effettivamente non mi risponde nessuno. Vuoi chiamare tu? Ma questo è il rischio di zona rossa e ci piace. Dobbiamo essere così bravi da riempire questi buchi prima che prima di arrivare alla team, alla volta. Questa cos'era Iliad. Sta ragazza qua che risponde da tutti i numeri. Io non capisco come faccia. Io per smorzare la tensione chiamerei Cigo. Chiamerei Cigo, ma sì, dai, vediamo se è attento e quanto tempo ci mette a rispondere. Cigognini maledetto, guarda che non è sul pezzo. Ma senti che suona il telefono, ma quando mai ha suonato il telefono con Cigo? È incredibile. Non ci risponde nemmeno Cigo, guarda che io chiedo tutto e finisce la puntata. Stiamo perdendo punti. Finisce la puntata, te lo giuro. Se cos'è? Non risponde Cigo. Che rumori fa? Mi hanno richiamato. Il nostro DJ di prima ci ha richiamato Cigo, non ha risposto al telefono, ma io per non chiudere questa problema lo richiameremo. E adesso Cigo, corriamo subito farla. A chiamare uno eri dei nostri una sicurezza, DJ preferiti. Cigo, eri una sicurezza. Ti racconto soltanto due aneddoti. Vai. Primo aneddoto, questo DJ è uno che arriva col booster sul palco. Questo DJ è uno che ti fa la serata nel cesso. Cioè, se adesso non mi rispondi, mi hai appena richiamato, mi devi rispondere per forza. Sai quante volte capita con mia madre questa cosa durante i pomeriggi? Ti chiamate interi pomeriggi. 7 volte a rimbalzo a testa. Sì, sì, incredibile. Sì, incredibile. Adesso lui avrà preso il telefono e ha detto: ah, non mi ha risposto. Segreteria telefonica. Niente. L'ha lanciato via, ma a questo punto. Non è facile pensare che la gente ti voglia prendere per il culo. Ma sì, comunque. Esatto. Cioè, esatto, nel senso, esatto. Accetta facciamo questa così, cosa. Facciamo la musica, aspettiamo che qualcuno ci richiami. Attenzione, davvero, schema zona caos. Rossa va in censura. Schema caos. No, facciamo così. Scherzo, buonasera. Ciao Ale, sei in diretta Radio ZM. Allora, com'è? Tutto a posto, tu a che Campari sei? Ma che Campari, oggi è tre volte che tento di andare a fare la spesa, vedo la coda che c'è e me ne vado a casa. E non va bene, questa cosa non va bene, ci sono le brigate. Sto bevendo apposta. Il Borghetti in questo momento. Stai bevendo il Borghetti, grandissimo. Allora, abbiamo sentito la Jessica prima che era col Prosecco. Il compagno ancora prima, quello della Zussino, non so se lo conosci, mi sa di sì, del cartello dell'amore, avete suonato anche insieme. No, non mi sembrava però. No. Ma dove siete? Allo ZAM? Certo, a Radio ZM. Maledetti cani. Ascolta, Ale, ma si pensava di fare un seratone tutti in quarantena, se soltanto se tu suoni con noi dal cesso. Cosa? Cioè, io noi vogliamo una serata in cui tu stai seduto sul water e ci metti la musica. Mi sento malissimo. Mi senti malissimo? Non lo so, c'è sì. un folletto che gioca con i livelli. Ma sei col viva voce? No, praticamente stiamo chiamando col telefono attaccato al mixer della radio. Ah. Va bene? Possiamo farlo o dici meglio di no? No, è una diretta? Certo! Sei in diretta, esattamente! Oh porco Dio, meno male che non ho detto qualche sconceria delle mie. Ma infatti io in realtà puntavo proprio a quella, ma vabbè, ci arriviamo per aspetta, gradi. Aspetta, chiariamo la questione, è un programma di idiozia. Ah, beh, giustamente allora avete pensato a me. No vero, chiamiamo anche antropologi in questo programma, è quello il punto. Gli idioti siamo noi. È vero. È vero, ma che programma confermo. È, raga? Me lo dovevate dire, che figa, vi ascoltavo. No, questo è vero, avremmo dovuto dirtelo, ma tendenzialmente invece non comunichiamo alle persone che gli telefoneremo. No, ma okay. Noi non comunichiamo nemmeno che facciamo radio, noi chiamiamo la gente, così poi la obblighiamo ad ascoltarci. Io non ne sapevo un cazzo. Esatto. Ma senti, allora torniamo all'idea originaria. Tu sei diventato famoso per due aneddoti. Punto primo, salire con un booster sul palco dell'Aurora a una serata trash, ricordi di Dax, se non sbaglio, giusto? Rimane umile. E il secondo è per aver lanciato uno dei format più belli che abbia mai visto nelle serate dei centri sociali. Ma ti prego, parlacene tu. Ah, il famoso Toilette Hi-Fi. Madonna. Ragazzi, che serata è Toilette Hi-Fi? Incredibile. Raccontaci. Raga, quando volete replichiamo, cioè il format assolutamente è semplice. No, ma format è semplice. Esatto, basta, ma ci devi raccontare com'è, che cos'è. Basta un cesso un po' capiente, serve solo quello, al resto penso tutto io. Ok. Praticamente la concezione è quella di spostare la... di fare una serata parallela a quella ufficiale nel cesso del locale. Bello. Che comunque adesso perché? Ovviamente la condizione sine qua non è che la serata principale non sia una serata trash. Certo. Per dire, ci deve essere in parallelo una serata reggae, pop, drum and bass. E la trash si fa lì nel cesso per pochi intimi. Giusto, che magari fanno anche cose nel frattempo, metti che qualcuno ha una specie di bisogno fisiologico, puoi esplicarlo lì direttamente, esatto, dove la musica viene diffusa. Si crea un amore particolare. Esatto, io direi un'atmosfera odorosa. Come? Direi che si forma un'atmosfera, come dire, odorosa. Aspetta che mi sposto, che qua non prende un cazzo in sta casa. Da dove mi stai parlando? Da dove ci stai parlando, Ale? No, non ci senti? Sì, io ti sento. Tu riesci a percepirmi? Okay. Sì, sono andato in terrazzo. Fantastico. Dicevamo che durante una serata di Toilet Hi-Fi, dove la musica viene diffusa direttamente nel cesso, se qualcuno va e esplica le proprie funzioni fisiologiche, è naturale che si crei un'atmosfera odorosa, insomma. Ma sia amorosa che odorosa. Anche amorosa, mio Dio. E io onestamente vorrei far notare questa cosa. L'abbiamo pensato, ma non l'abbiamo detto. Non è un caso che Zama abbia l'antibagno più grande della storia dei centri sociali in Italia. Ma infatti, guarda, il bagno di Zama è perfetto. Sembra fatto apposta per Toilette Hi-Fi. Secondo me nel tuo inconscio l'hai pensata lì. Non lo sai, ma l'hai pensata lì. L'ho pensata lì più di una volta, ho detto sarebbe bello lì al bagno dello Zam, e infatti è stato bellissimo. Madonna, ma io mi ricordo un gran successo di pubblico e di critica. Era il compleanno della B-Pop, quindi un 12-13. Sì. Sì. Attenzione, abbiamo la testimonianza. Attenzione dalla piccionaia. Ale, devi essere contento. Vieni qui, un compagno anonimo che resterà anonimo. Vai. Io quella sera ho scopato di brutto. Le serate Toilet Hi-Fi, attenzione, aumentano l'amore. Ripopoliamo. Attenzione, abbiamo un'altra testimonianza. Ale, sei pronto? Sentiamo. Vai. Io quella sera non ho scopato, ma mi è piaciuta lo stesso. Ah, Madonna! Ancora di più. Attenzione, un'altra terza testimonianza, zona rossa, Radio ZM sta esplodendo. Io quella sera non c'ero, ma avrei voluto esserci. Madonna santa. Ale, ma hai capito cosa hai creato tu, Ale? Oh, un mito. Io quella sera non sono stato scopato, quindi il primo non ha scopato con me. è uno. E il secondo? Il secondo mi spiace per lui. Vedremo di fare meglio la prossima volta. ma sì, solidarizziamo come tutte le volte. Cioè, male che vada, puoi scopare per terra a fine serata. Che è sempre comunque molto trash. Va fatto bene anche in quel caso lì. Va bene, ma io adesso ho due proposte indecenti. Prima proposta indecente, dato che tu sei un DJ trash, e se non sei un qualsiasi DJ trash, tu sei Ale Baga del Trash Milano, mi devi proporre un brano. Ma ti lascio qualche secondo per rifletterci. Ma la seconda proposta sconvolgente e anche abbastanza pazzerella è questa. In queste serate di quarantena dobbiamo cercare di portare in casa degli italiani e delle italiane un po' della gioia che la trash porta sempre. Noi possiamo farlo in diretta, streaming dalla radio di Zam, cioè Radio ZM. Noi ti proponiamo questa cosa. Noi ti proponiamo ti proporrei tu in mutande, giacca e camicia sul water di casa tua, che proponi musica con diretta streaming Facebook e audio mandato su Radio ZM. Ale potrebbe essere Madonna, una roba in questo momento. Guglielmo si è messo in ginocchio per farti questa richiesta. Non so se me la sento, eh. Guarda, noi ce la sentiamo quasi... molto. Non riesco a capire quasi... se hai bevuto troppo poco o già bevuto troppo. No, qua si toccano dei livelli, perché tra l'altro io ho già fatto due toilette hi-fi dal cesso di casa mia in questa quarantena. Ecco, quindi... vedi? Ne vogliamo una anche noi. Non c'è due senza tre. Va bene, la possiamo organizzare. Oh, la possiamo organizzare. Abbiamo un ni, va bene. Va è bene. Già tanto, ci basta. Per zona rossa è più che sufficiente. Aspetteremo che ci sia il consenso, come sempre è giusto fare. Poi ti veniamo a prendere a casa. Esatto. Allora... torniamo a noi e alla canzone che ci proponi. Qualsiasi, quella che vuoi. Va bene, dai, allora in questo momento di grande solitudine per tutti, direi che ci può stare Muscolo Rosso di Cicciolina. Madonna! Zona Rossa sta toccando dei livelli con queste telefonate incredibili. Allora, prima abbiamo chiamato una DJ, una ragazza che mette la musica, che ci ha proposto una canzoncina Goldfire di una certa Santi Gold, ma noi con te siamo sicuri di aver fatto veramente il jackpot totale. Vabbè, raga, il genere è quello, non potevo proporvi qualcosa di troppo intelligente. Ma poi Madonna. In questo programma si sposa benissimo, è perfetto. Zona Rossa, Muscolo Zona Rosso. Rossa. Cioè... perfetto. Comunque adesso che so che esiste una radio di ZAM cercherò di seguirla, non so, dite no, un ma po' fidati che da adesso in poi ti verrà a prendere lei. Esatto. Ah, addirittura. Sì, arriveranno messaggi su pagine Facebook, Telegram. Sì, no, ma è una minaccia, tendenzialmente noi... Neanche la Digos mi ha mai seguito così da vicino. Perché non aveva capito bene chi eri, perché se l'avessi capito... Noi l'abbiamo capito. Probabilmente sì, speriamo che continui a non capirlo. Esatto, lo speriamo anche noi per te. Va bene, ci siamo. Ilona Stanner, Cicciolina, Muscolo Rosso Original 1988 from Alebaga, Trash Milano. Olè. A questo punto, se riesci a connetterti, noi tenteremo di raggiungere anche Andreone, perché non è che c'è, noi che abbiamo presi due, non prendiamo anche il terzo. Raga, ma riuscire a telefonare ad Andreone è come vincere all'Enalotto. Va bene, sapete, no, noi saremo fortunati, dai, saremo fortunati, Zona ci speriamo. Rossa ci prova. Ma dove cazzo vi devo seguire? Bravo, così possiamo dire dove ci ascoltarci. Allora, vai. Prima di tutto ci puoi seguire sul link che ti verrà mandato da Guglielmo quando mette giù, perché è un sito internet in realtà. Per seguirci e supportarci ci sono la pagina Facebook Radio ZM. Okay. Poi c'è il canale Telegram, per chi ha Telegram, dove mandiamo ogni volta le dirette che facciamo, i podcast e tutte le informazioni varie. E poi c'è un sito, quando andrai su Facebook lo troverai nei link, dove teniamo i podcast, perché carichiamo i podcast. Anche questa puntata dove sei in onda te andrà su un podcast. Ah, pensa te che figura di merda in diretta nazionale. Puoi rifarla tutte le volte. Ma che guarda, vuoi. Se ascolti i podcast di Zona Rossa capisci il format e stai più sereno. Capirai che le figure le facciamo noi. Esatto. Va bene, da oggi mi darò da fare sui podcast. Boom. Tanto... bravissimo. È stato veramente un piacere e adesso... anche per me. Allora è amore. Allora è già amore. Attendo il link. Fantastico. Ci vediamo presto dal vivo, raga. Muscolo Rosso, Ilona Stanner in arte Cicciolina. Grazie mille, Ale. Ci risentiamo. È una minaccia. Ciao, ragazzi. Ciao, ne. Che sei Va bene, ringraziamo il nostro fantastico DJ Sale Baga che ci ha consigliato questo pezzo meraviglioso. E proseguiamo la nostra conduzione verso lidi ugualmente strani e variopinti. C'è un animale particolare che si muove nel sottobosco del movimento milanese da anni. Scusate, forse addirittura da decenni. Sono sparito, ma intanto io faccio anche tecnico. C'è di tutto, informatico, rompipalle. Ma no, quello l'hai detto tu. Mannaggia, mi sto accorgendo che non ho il numero. Lorenzo, tieni no, i piedi questa attenzione. Trasmissione un secondo mentre io cerco il numero. Assolutamente sì, anche perché potrei raccontarvi veramente un sacco di cose. Però in realtà c'è una cosa che tu hai interrotto a inizio puntata, sì. Che ora non ricordo, ma che tu mi aiuterai a ricordare. Che tu al liceo hai fatto calcio. No. Io non l'ho mai detto e lo dirò per la prima volta in diretta in questo momento, perché me la sento, penso che sia arrivato il momento giusto. Ma io voglio, e ripeto, non desidero, non vorrei, no, io voglio fare un programma con Meme. Attenzione, avance, avance pesanti. Era esatto, distratto, era esatto, distratto. La risposta è quella, io lo sapevo già. E quando pensavi di dirmelo? Praticamente... Se aggiungono persone ai microfoni, ma scusa, perché non facciamo cambi di microfono? Che siamo un po' più comodi? Genio del male, aspetta che così no. Oh, abbiamo creato un Radio ZM, è l'unica radio che riesce a scambiarsi il microfono in diretta. Nonostante i 6 metri di distanza. Esatto. Abbiamo creato un setup così funzionale, ma così rigido. Esatto. Che non ho... Mamma mia, dopo la canzone di prima. Non ho proprio. Attenzione, è partito. Per questo voglio fare un programma con Meme, perché dice una parola e viene da ridere. È partito anche l'altro. Boh, ci dicono, il nostro amico DJ ci ha fatto tutto... cenno che gli è piaciuta la canzone, gli piacciamo noi. Benissimo, benissimo. Ma questa allora è una ragazzi, cosa di cui siamo veramente contenti. Stiamo si chiamando o vado avanti a parlare? Stiamo chiamando, è un compagno mezz'ora. Storico della nostra area politica, lui ne sa qualcosa di trash. Se risponderà al telefono potremmo esserne tutti felici e felicissime. Vediamo, c'è tensione nell'aria. C'è tensione. Gli diamo prima, il rispetto del silenzio. Poi Yax deve recuperare il microfono perché avevo qualcosa da dire. Ah. Dopo. Vabbè, è passata la poesia. Vediamo se ci risponde. Speriamo che abbia ancora il mio numero. È quello il problema, silenzio, Guglielmo. Silenzio. Speriamo non abbia ancora il tuo numero. Stiamo lasciando dei secondi di silenzio. Lorenzo, non è mai successo nella storia di Zona Rossa. No, perché in realtà c'è questa cosa qua, bellissima, di cui volevo parlare, però è troppo lunga per una telefonata. Sai che mi sa che non ha neanche la segreteria? No. Possiamo tenerlo qua per un sacco, esatto. Delle ore. Praticamente, cos'è successo pochi secondi fa? Si sono accese le luci. E questa cosa mi esorta a fare un discorso che non viene fatto su questa radio da veramente tanto tempo. Cioè. ZAM Solar System. Ma di cosa stiamo parlando? Ma veramente? Qua ormai... Cioè, ci siamo talmente abituati ad avere la luce che non ci ricordiamo più com'è stato non averla. Madonna, nel senso che tutti gli sforzi che sono stati fatti per supportare la campagna hanno dato i suoi frutti. E in realtà non si parla di frutti, ma di luce. Esatto, un frutto luminosissimo. Frutto luminosissimo. Comunque devo ammettere che questo microfono è di una scomodità mortale, perché devi stare in una posizione con la testa che diventi scemo, come sono io. Per il mio compagno Guglielmo ho preso il microfono di merda e lui ha capito... Cioè, mi ha insultato dicendo che ho sbagliato 7, si è preso lui il microfono di merda e ora l'ha capito. Sì, hai ragione. Quando i microfoni stavano incrociando che neanche le spade dei samurai, ho detto, ma forse è un po' un picchino scomodino. Vi invece ricordo in questo che c'è le... un cavo teso tipo violino. Le nostre aste sono lunghe 7 metri. Ovviamente, ci permette di andare ovunque. Che si stavano scontrando. Comunque questa frase potrebbe essere usata contro di noi, perché è veramente terribile. Il livello sta andando sotto i piedi e ci piace. E ci piace, siamo fatti così. Via, si chiama qualcun altro, si fa un altro giro, un altro regalo. E si va avanti, questa cosa verrà scompare dalle mie spalle prima che ti picchi. Sì, Fergi ha la capacità di arrivare in radio e iniziare a fissarti. Esatto, e non si capisce bene cosa voglio dire con questo sguardo vitreo. Dai, ma la gente non ci risponde al telefono perché veramente sta mangiando. Allora, buonasera, tutto bene? Tutto a posto, te? Bene, dimmi tutto. Ascolta, caro, modera bene il linguaggio perché sei in diretta su Radio ZM Zona Rossa. Benvenuto. Ciao. Veramente? Te lo giuro. Veramente. Cazzo, io stavo dormendo, raga. Mi svegliato, è svegliato, devo dire. È un programma che vuole arrivare quando meno te lo aspetti e vuole essere più insistente che mai. Esatto. A parte gli scherzi, scendi che siamo qua sotto. Dai, vieni giù. Dai, fai bravo. Abbiamo una cosa da fare stasera, Dave. Non ho capito. Abbiamo una cosa da fare stasera. Pronto? Stasera esco. No, sto a casa. Non Bravo. Farò niente di che. Penso mi guarderò un film, non lo so. l'ennesimo. Va bene, allora mettiamo in ordine le cose, dai, così ci facciamo capire. Noi siamo Zona Rossa, Guglielmo e Lorenzo. Ciao. Ci conosci forse, lui è Davide, qualcuno lo conosce perché è stato più o meno ovunque nel movimento milanese degli ultimi anni, con la sua inventiva, con la sua elegantezza, elegantismo, quella roba lì. E ora ci racconterà qualcosa della sua vita. Davide, tieni conto che questo è il programma più idiota di tutta la radio, quindi vai sereno. Ma anche del mondo, probabilmente. Esatto. Grazie a Gulli per questa bella introduzione. Figurati. In realtà, guardate, la mia vita, io sto lavorando parecchio per fortuna, e questo mi sta tenendo molto impegnato. Se no probabilmente me la starei passando molto peggio. Poi anche la fortuna di passare la quarantena assieme alla mia ragazza, quindi non sono da solo a casa. Santa donna che ti sopporta, possiamo dirlo. Sì, sì, assolutamente. Poi abbiamo anche un coinquilino che però va e viene perché lavora come educatore in comunità e quindi fa qualche giorno fuori, qualche giorno dentro casa. Quindi diciamo che ho la fortuna, insomma, di non essere proprio tra quelle persone che sta passando sola soletta la quarantena, a cui va tutta la mia solidarietà, perché immagino debba essere davvero difficile. Tra l'altro, scusami un secondo, ma sbaglio o gira in alcuni ambienti dell'underground del movimento milanese anche un video dove tu morsichi un piede? Perché adesso caspita, ti stai spacciando come una persona seria. Come? No, in realtà no, io sto leccando la panna dal piede del mio coinquilino, perché abbiamo fatto un gioco stupido a carte. No, giocavamo a scopa e chi perdeva, insomma, doveva... Penitenza. Mi sembra giusto. Non so come vi sia arrivato, però. Ma tipo pubblicato su Facebook, una roba del genere. Tipo, una di quelle cose che, cioè, non vede nessuno, effettivamente. Ok. No, in realtà okay. No, su Facebook no, vabbè, comunque bene così, sto provando di vendicarmi dei miei due coinquilini di questo momento. Comunque, no, niente, è tutto vero comunque, non è un deepfake mio, ma sono io veramente che lecco la panna dal piede del mio coinquilino. Va bene, però allora noi da te vorremmo sapere anche qualcosa riguardo a quel tuo altro progetto quasi professionale, sicuramente molto politico. Tu fai parte di una redazione web, tu scrivi di politica su un portale famoso ai più ormai e anche alle più. Parlaci di Milano in Movimento, sì. Dai, dici qualcosa. Ma Milano in Movimento, sì, sta continuando a pubblicare contenuti, diversi redattori tra l'altro sono impegnati sui diversi fronti delle brigate di solidarietà milanese, nel senso che molti stanno facendo queste attività con tre diverse brigate. E per quanto riguarda la nostra attività, chiaramente come tutti non possiamo vederci, ci coordiniamo sul nostro mitico gruppo WhatsApp e questa è un po' la situazione. Ci stiamo limitando un po' a riprendere quello che sta comunque succedendo. Abbiamo anche fatto qualche rubrica in cui consigliamo film, serie o libri per trascorrere la quarantena. Chiaramente sì, ci stiamo limitando, insomma, a riprendere quello che comunque stanno facendo molti compagni e compagne anche in un momento di crisi come questo, quindi soprattutto le brigate di solidarietà, la campagna sul reddito di quarantena e anche un po' raccontare quello che sta accadendo rispetto alla gestione della crisi in Lombardia e quindi anche le responsabilità che ha avuto la regione, il governo sulla mala gestione di molte di queste, cioè, molte cose che sono andate sicuramente male a causa di responsabilità di persone che ci governano. Comunque una persona seria impegnata, moltissimo, che dice cose intelligenti, troppo per questo programma, forse troppo. Non la chiamiamo più, forse esatto. Non ti chiamiamo più Dave, pensavamo di trovare in te un po' di simpatia, però sono contento che finalmente si è parlato di Milano in Movimento nei canali di Radio ZM, perché è giusto così. Doveva essere anche prima. Sì, esatto, sì, sì, sì. Esatto. Abbiamo anche letto, forse nella prima ora, abbiamo letto degli articoli di Milano in Movimento, forse un articolo che era quello su Milano Paranoia, forse il titolo non era questo, ma più o meno ci si avvicina. Vabbè. Poi io voglio fare momenti in cui leggo articoli, soprattutto i vostri, ma Guglielmo ogni volta mi dice di no, quindi... Non si può, non possiamo leggerli, perché non sappiamo leggerli principalmente, guardiamo al massimo le figure. Esatto. Ma ascolta, Davide, cosa mi bevi durante il film? Non ho capito. Cosa mi vai a bere durante il film? Sei uno d'acqua liscia, uno d'acqua tonica per una serata un po' più digestiva? Ah, in realtà sono sì, una pessima specie di consumista, nel senso che sono un grande amante del popcorn durante il film. Come giusto che sia. Assieme a bibite dolciastre, cose varie, alcoliche. Quindi tu sei proprio, hai quello scricchiolì di sottofondo che di solito al cinema è graditissimo, quello che sì, frulla con la mano. Sono tra quei pezzi di merda che mentre guardo il film ha il popcorn jumbo di fianco, quindi sì, sono esattamente quella brutta specie di persone. Che bevono la Coca-Cola per un quarto d'ora anche se è finita col ghiaccio, quelli là. Sì, sì, e fanno il rumore con la cannuccia. Esattamente. A noi ci piace perché ci piacciono le cose fastidiose, quindi va benissimo così. Se uno di noi, inopportuno quanto basta. Esatto, esatto. E ti diciamo di più, ti diamo anche il lusso di scegliere una canzone che verrà trasmessa in radio fra subito. Esatto. Che è italiano. Che è italiano così così. Vai, dacci una, un titolo. Allora... Johnny B. Good di Chuck Berry. Oh, bellissimo. Ma che bravo, ma ragazzo. Che bravo. Ma forse ce l'abbiamo anche, sai? Probabilmente ce l'abbiamo, se no dovremmo tenerti al telefono ancora per tipo tre quarti d'ora, qualcosa del genere. Adesso Guglielmo va in spedizione, scende in miniera. Johnny, si scrive così? No. Si scrive soltanto B. Good, ma lo troverà. Esatto, scrivi soltanto B. Good. È probabile che cercando un po' a destra e a sinistra. Ma sai che forse no. No. Allora ci conviene scaricarla. Niente, scarichiamola per non stare qua a tenere Davide al telefono per troppo tempo. Davide, una domanda al volo che mi piace fare, che Guglielmo ogni volta guarda un'altra parte, però va bene così. La cosa più assurda che hai visto da quando è cominciato tutto questo? Da quando è iniziato? Ho adottato un pappagallo che era stato abbandonato per strada. Cioè, probabilmente la cosa un po' più assurda. C'era questo pappagallo abbandonato per strada, i miei amici che facevano i volontari l'hanno trovato e me lo hanno portato a casa, e ora ogni mattina mi sveglio con il suo dolce cinguettio in casa, quindi sì, questa è una roba un po' più pazzesca. Ma questa è una storia bellissima, secondo me. Sì, bellissima, sì. Bellissima storia. Si chiama René adesso, è una calopsite. Cioè? Dici di più. È un pappagallo, una razza di pappagallo australiana. E a me, in realtà, stiamo pensando di cercare una sorta di voliera o cose un po' più spaziose della gabbia, comunque abbastanza grande, che abbiamo in casa per la fine della quarantena. Adesso stiamo un po' valutando cosa fare con il nostro René. Noi siamo un programma che esorta molto al consenso, quindi chiedo il tuo consenso di ritelefonarti a caso, completamente a caso, nelle prossime settimane per sapere la storia di questo pappagallo. Va bene, va sì, bene, sì. Va bene. Il mio consenso. Faremo le cronache di... come si chiama il tuo uccellino? René. Il cronache di René. Le cronache di René. Cosa vede René dalla sua spaziosa voliera in zona Porta Genova? Mi raccomando, Va bene, grazie mille ragazzi, grazie per la telefonata. Ma grazie a te e grazie a Johnny B. Good che è arrivato. Fantastico. Puoi accomodarti là, grazie. No, è Chuck Berry che è arrivato, Johnny B. Good è soggetto alla canzone, vabbè, ma sono arrivati insieme, perché qui c'è mischiata fantasia e realtà assieme. Comunque, Zona Rossa arriva anche alla geologia, alla ornitologia. Grazie mille. È zoologia, incredibile. No, quella no. Ciao Dave, buona serata. Ciao Dave, grazie. Ciao. Io che sono uno schifoso, la rimetto dall'inizio perché è breve ma troppo bella. E via. Dani Bigur. Madonna santa, che pezzo! Che pezzo, che pezzo. Ringraziamo tantissimo Davide per tutto, anche per il pappagallo, perché io ci tengo a queste storie. Mi fa piacere che vengano raccontate, perché non succede e voglio che succeda, e a Zona Rossa può farlo. Va bene, a questo punto io proverei una telefonata veramente randomica a una persona che ci eravamo ripromessi di chiamare. Guarda prima. Che oggi gira male la puntata sulle telefonate randomiche. Perché erano tutte programmate, invece era giusto. Sarà che sono io che ci voglio criticare verso gli operatori telefonici che non sopporto più, quindi sentire di nuovo la però voce della Wind. È veramente brutta questa cosa, per cui cioè io chiamo ma la gente non mi richiama. Non ti richiama. Ma ormai c'è cioè, un sistema perverso che fa in modo che io... Ciao Raja! Benvenuta su Radio ZM! Ma chi è? Ma vabbè, quello è Lorenzo, io sono Gulli. Ah. Okay. Benvenuta su Radio ZM, sei in diretta! Ciao, ma perché è così? Ciao ragazzi! Perché siamo fatti così! Siamo fatti così, il nostro programma è chiamare le persone a caso in diretta. Ma sì, tipo Radio 105, però non fate gli scherzi. No, no, gli scherzi non li sopportiamo, ci stanno anche un po' sulle palle. Non ci dare della Radio 105, per favore. Esatto, esatto, anche perché Linus ci ha offerto no, di diventare il loro partner alla palla e abbiamo detto, ma va, andate qua a morire a noi male. Noi siamo autonomi, lavoriamo così. Esatto, esatto, esatto. Ma Raja, allora, prima abbiamo sentito, credo, un altro ragazzo che era lì a Lambretta, tale Zussino. Ci eravamo dimenticati di chiedergli alcune cose, tipo... Ma il centralino che coordina tutte le attività delle brigate, come funziona sì. più o meno? Il centralino da una settimana è in fiamme e sta recuperando 450 chiamate al giorno. Confermo. Oggi si arriva a 500. Vabbè. Sì, con una coda di chiamate che purtroppo arriva fino a 800 chiamate, perché è evidente che non viene soddisfatta l'esigenza di tutte queste persone che si trovano a chiamare appunto un centralino sponsorizzato alla fine sui social, ma di compagni, appunto anche rimandati dal comune di Milano, è la cosa ironica. Cioè. Penso un po'. Però appunto sta riuscendo a soddisfare un sacco di richieste in giro per la città, grazie anche a tre posti di stoccaggio, uno in zona nord che appunto è Lambretta, quello in centro che è la Camera del Non Lavoro, quello in zona sud che è ZAM. Che è un posto che non conosciamo assolutamente, anzi consigliamo tutti quanti di non frequentare. Postaccio, un postaccio. Gente tremenda. No, no. Nome. Si capisce già che arrivano commenti, posto senti. Di gente orrenda. E quindi sì, c'è una bella struttura potentissima che sta riuscendo a soddisfare adesso una media di 500 famiglie al giorno, e che figata, è una forza. Yeah, yeah. Va bene, ma allora noi facciamo queste brevissime incursioni nelle cose di senso, poi torniamo noi stessi, e per noi stessi si intende proprio io e Lorenzo, che siamo due alla fine, due per di giorno, due inutili, lasciati così sul bordo della strada della storia. È proprio un programma che vuole risultare fastidioso, quindi non ti preoccupare a insultarci, a metterci giù male. Inveirci. Sì, sì, sì. Io no, faccio cose intelligenti. No, poi... Vabbè, ma sarebbe tutto vero. Inizieremo la nostra sessione di 45 minuti con te. Per esatto. iniziare a partire le domande. Esatto, ma quindi preparati se avevi la serata impegnata. 45 minuti sul serio? Certo, certo. Cronometrati, non lo sapevi. Ancora partito il cronometro. Praticamente c'è un'app speciale che tanto ci ha brevettato un compagno dell'Ambretta, K, che forse potremmo chiamare anche dopo per ringraziarlo, che praticamente ti ha bloccato il telefono. Sì, vi prego, chiamatelo. L'unica cosa che puoi fare è parlare con noi 45 minuti, se no non si libererà più, cioè anzi, non lo puoi più usare. Se metti giù verrai richiamata all'infinito, ogni volta ripartirà il counter esatto. per 45 minuti. Quindi iniziamo questi 45 minuti chiedendoti, Raja, ma l'ermeneutica esistenzialista, dammi un'opinione. Non so di che cosa parli, se parli come mangi ti posso rispondere. Va bene, sennò... seguirà. Di solito ci capita anche di mangiare durante la diretta. Abbiamo già fatto lo spuntino. C'è tra successo. Poco beati voi. Sicuramente arriverà la cena. Oh. Però in realtà, ecco, vai, vai, vai. Ci sembrava di aver capito che c'è un pesto di fave in pentola per questa sera. Sì, sì, sì, sì. Tu come mi sei? Mi aggradisci il pesto di fave? No, o mi sei un po' contraria? Io stavo per cucinare la pasta con il tonno e i fagioli, in realtà. Ah, e via. Quindi c'è una scissione sì. nella cucina della brigata Elena Medotti. Modotti. No, però preferisco mangiare che cucinare, quindi sono tranquilla. Che roba strana. Ah, ok, fai cucinare, cioè fai cucinare sì. gli altri. Sì, sì, sì. Okay, okay, okay. Mi piace di più mangiare. Giusto. Esatto, esatto. Mentre invece una cosa di vitale importanza per tutto il territorio, che è una cosa, noi stiamo mappando anche le risposte, quindi verrà inserita in un database ovviamente col tuo consenso, la cosa okay. più assurda che hai visto da quando è iniziata la quarantena. La cosa più assurda? Ma che hai visto, che hai sentito, che hai letto, che hai visto sui social, quello che ti pare. No, non per forza la più brutta, la più assurda. Mizza, che domanda un po' complessa. In questo periodo tutto assurdo, ci penso. Posso passare alla domanda successiva? La fa Guglielmo. La faccio dopo, la domanda successiva, che è facilissima, e d'altronde mi trovate assolutamente preparato. Qual è il tuo pezzo preferito nelle serate trash? Nelle serate trash, Work di Rihanna. Devo dire. Work di? Rihanna. Tanto sì, Rihanna sì. È ritornata, vabbè, poi ne parleremo. No, maledetta primavera, oppure ma chi ha detto che non c'è a fine serata. Ok, ma senti, ma c'era un gruppo una volta, un gruppo di DJ Trash che è stato come un astro lucentissimo nel fantastico panorama notturno, gruppi di DJ Trash che si chiamava Avery Berkel. Ci sai raccontare qualcosa, Raja? Sono due compagne bravissime che si sono messe a trashare con la musica e hanno fatto ballare un sacco di persone. E quali erano i loro cavalli di battaglia, i pezzi preferiti? Quelli che facevano ballare, chiaramente, perché nessuno rimaneva fermo. Dici qualche fermo. Titolo, dai. Così su due piedi non mi ricordo che cosa suonavo, però... Ah, ma allora eri tu una delle due! Madonna, minchia, se mi sento un po' al programma di Barbara D'Urso, compà. Addirittura la Madonna, questo forse abbiamo esagerato. Sì, sì, esatto, esagerato. Questo incassiamo e portiamo a casa. È il momento di fare autocritica. esatto. Ci sta, bravo. Facciamo anche quello. Bravi. Talvolta si finisce per fare così, essere così idioti, che si finisce veramente nel trash. Vabbè, va bene così. Ma era partita così la puntata. Non dici? Sì, secondo me sì. Può darsi. Secondo me sì. Va bene, ma senti, carissima, vuoi proporci un brano musicale con cui ti possiamo accomiatare, lasciare a cose ben più proficue? Sì, Body Part di Marrakesh. Oh. Body Part? Sì. Non era stato ancora messo allora. Il signore. Adesso lo chiamiamo. Il Marra. È dietro il corridoio, esatto. Che aspetta il suo turno. Come tutti gli altri. Tutti gli altri musicisti che chiamiamo ogni volta in live qua sotto consiglio dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Body Part, trovato. Quindi devi rispondere alla prima domanda che è stata fatta, altrimenti la canzone non parte. Quando? Quella prima domanda, non lo so, la cosa più assurda è aver ricevuto questa telefonata mentre stavo scrivendo un messaggio fondamentale. No, però è incredibile, siamo stati inopportuni anche stavolta, quindi obiettivo raggiunto. No, invece è stato bellissimo sentirvi. Domani tanto vi vedo, uno scappellotto parte a testa. Mannaggia, però è quello che punta a zona rossa. Comunque ci vedrai pur rispettando tutte le garanzie, le norme della di sicurezza, quarantena, certo. Cioè, distanza di 1,60 m. Sì, lo certo, scappellotto certo. Ce lo tiri con un randello immenso che ci virtuale, frana sul cranio. Farà male lo stesso. Fare radio meno. Giusto. Ti prego, Lorenzo, riempi questi vuoti parlando con la nostra fantastica compagna. No, io confermo le parole che sono state dette, perché quando Guglielmo mi passa la palla finalmente posso essere serio, perché sennò mi picchia. E tutta colpa mia. Confermo le parole che sono state dette, perché il centralino secondo me è una cosa molto bella da fare, nel senso che è vero che c'è un filtro telefonico che si mette tra te e la persona, ma in quel momento si annulla completamente, soprattutto in questa situazione qua. E sì. la chat è collegata, siamo tutti in contatto, è un momento veramente molto bello secondo me della giornata da condividere, e quando escono fuori i numeri è positivo. E tutto questo, mi piace dirlo, lo voglio rivendicare, esce completamente fuori da una logica economica, perché è volontariato, sì. Viene dalla pancia e dal cuore, e stiamo riuscendo a farlo lo stesso. Quindi scusa Guglielmo, tu mi passi la palla, io devo dire, per carità di Dio, rovina così la canzone è pronta, io ho smesso di parlare perché sto rovinando zona rossa. Grazie Raja e ci sentiamo domani. Ci rivedremo ciao, presto. Compa. Ciao compa. Ciao meme. Ciao ciao. Ok, allora attenzione. Facciamo partire la canzone. Prego, Body Parts. Entri pure esatto. Da questa parte. Esatto. Ho sbagliato, devo fare qua, devo fare un dissolvi ora, sennò l'effetto è negativo, certo. E poi il regista si arrabbia. Certo, alziamo il volume e ci ascoltiamo Marrakesh. Devo stendere il cellophone prima. Zona 6 barona fra Milano su. Vieni che ti levano pure tatu. Siamo i mostri delle fiabe Babadook. Valutiamo se sei serio, infame non si bada al look. Vieni di persona, vieni vis a vis. Chiedi di persona che il nuovo CD. Dopo che lo ascolti dici ho holy shit, come fa a costare come gli altri che c'ho solo hit? Come fa? Flow fai buchi in testa come le balene, yeah. Vi ho lasciati soli, guarda che succede, yeah. Civil War dei rapper, Taurus e Macete. Io sono la Svizzera che è ricca e dove si sa bene, yeah. Sono su una tela, brompina, coteca, come il Cristo morto mantegna. Sono su un Defender in Kenya con la miss cantante italiana più fregna. Yeah. Sembra che più li mando a fanculo e più mi cercano, perché la mia ribellione vi vogliono vendere. Giro senza guardia del corpo, i miei amici sono la guardia del corpo, il rispetto è la guardia del corpo, quello che ho scritto è la guardia del corpo. Marrakesh. Sono un insicuro, non accetto me, senza dimostrare più a nessuno, frate, eccetto a me. Eccetto a me. Canto bene quasi quanto faccio rap, come se ci fosse Marrakesh, futuro in Marrakesh. Marrakesh. Col cazzo in piedi tipo nice to meet you, i nervi tesi, lesi da una stronza altro che me too. 21 grammi d'anima in arritu, un chilo e mezzo di cervello, 130 di Q. Ghiaccio nello sguardo, frate, sangue caldo, cerco il cuore del problema per accoltellarlo. Mi levo la pelle come rock DJ, Robbie Williams, i polmoni in radio, frate, on A. Le sere in quartiere, lo scheletro e la fede, le bestie mie preghiere. Io vedo roba cringe buona solo per i meme, lo stomaco si stringe quando vedo i Frank Atene. Amen. Perdona il mio ego al top di Spotify, vuoi mangiarmi il fegato ma non lo fai. Stringo sempre i denti ma non metto il bite, metto il bite. Muscoli di ferro, scemo Iron Mike. È sempre questione di soldi, elimina il resto di conversazione. Vai. E poi levati sì dai miei occhi se possiedi istinto di conservazione. Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Ma c'è un abisso tra ciò che sei per gli altri e ciò che sei per te stesso. E questo ti provoca un senso di vertigine per la paura di essere scoperto, messo a nudo, smascherato. Poiché ogni parola è menzogna, ogni sorriso smorfia e ogni gesto falsità. Allora, torniamo tempestivamente in onda. Tra 10 minuti avremo un collegamento leggermente più serio, più organizzato, diciamo così. Tra l'altro i nostri aspettando. Ma sono ah, ok. E allora cosa dovevo fare? Vabbè, niente, perché ci stiamo intendendo con i nostri fantastici ospiti seri. Sì. Ma nel frattempo abbiamo lanciato un SOS Freddura al nostro solito dottor Freddura, che magari ci sta anche ascoltando. Qual è il mobile più tenuto nel pogo? Ripeto, qual è il mobile più tenuto nel più temuto nel pogo? Ah, lo scaffale. Madonna! Va bene, è fantastico avere la rossa oggi raggiunge dei picchi che neanche i terremoti, però, neanche i terremoti. Però questa è proprio la, come si dice, è proprio come si vede la solidarietà. Nel momento difficile un amico che ti dà una freddura pessima lo trovi sempre. Esatto, esatto. Ringraziamo Cigo e ringraziamo anche il database da dove lui ha preso, no, questa freddura. No, che Cigo, Racesa, ignorante. Mi sembrava. Allora ragazzi, il nostro antropologo di riferimento sta salutando 30 persone su chi era in chiamata Zoom per venire da noi a parlare con noi di una cosa meravigliosa. Cioè, tutto ragazzi, questo è incredibile. Fantastico. Tutto qui la se la puntata si dica impenna. Che siamo la Barbara Dura. D'Urso, esatto. Della situazione. Non ce la siamo legata al dojo. Siamo meglio della Barbara D'Urso, molto, esatto. Meglio, molto, esatto. Più giù. Allora, possiamo iniziare a mandare il link della nostra fantastica zoomata al primo ospite, che come ormai avrete benissimo capito è il nostro fantastico amico Andrea Stide. Che ringraziamo. Che ringraziamo e che oggi ha guidato assolutamente questa puntata, perché ci ha dato lui l'avvio. Allora, mi chiedono di mandare il link a questo indirizzo mail. Non c'è nessun problema. Non te lo leggo, perché sennò lo regaliamo al 500.000 di persone che ci ascolta. No. Ma vi svegliamo allora a questo punto di cosa parleremo stasera. Su indicazione del nostro fantastico antropologo di riferimento Andrea, stiamo andando a contattare Paolo, che è un altro compagno del Full Circolo Esperimenti, del collettivo Esperimenti, chiedo scusa, che insieme ad Andrea ha realizzato un film documentario sulla storia degli Arditi del Popolo. Argomento che è già molto caro al nostro unico e fantasticissimo direttore Gigi, che anche lui ci scrisse la sua tesi di laurea triennale in scienze politiche. Bene, allora io penso che a questo punto forse abbia più senso mandare una canzoncina, ma mentre sì, mettiamo ma le ultime cose, la situazione, picchiarci in diretta, esatto. Senza i microfoni accesi. Esatto, anche perché siamo effettivamente in anticipo di qualche minutino. Attenzione. Vai Lorenzo, decidi la tua canzone, dai. Guarda, io per rimanere un attimo in tema... Ho già deciso io, bene, ti ringrazio, ciao. We're feeling good, make you wanna do good, now that's me. Make you wanna look good. Whether you're wearing your Sean John or your Rough Rider. Giddy up for Jesus. Giddy up for Jesus. Jesus is everywhere. In the church, you see Jesus. When you go to sleep, you dream Jesus. When you wake up, you see Jesus. When you put your toast in the toaster, who pop up? Jesus. When you take your clothes out the dryer, who do you see? Jesus. When I looked in my closet, guess who I saw? No, but when I turn around, he would ride behind me. He would ride behind me. He would ride behind me. Ma no, ma dillo pure nel microfono. Ma tu me l'hai chiesto il microfono. Ho capito, ma sei tu che mi indicavi l'iconcina rossa, che dicevo, ehi, guarda, siamo in diretta. Qua te ne sei dimenticato però, pusillanime. Ma per niente. Ma nel frattempo abbiamo forse già qualcuno su Zoom? No. Vai. Vediamo, ora passa la tensione e ricordati di condividere l'audio dal tuo supporto multimediale. Buonasera. Eccoli. Ci sentono entrambi? Ci sente solo uno? Guardate lì che roba. Buonasera, io sono in ritardo con tutti. Ciao Paolino. Ciao André. Oh, ma bella. Che bello! Che emozione! Quanta bella gente! Questa reunion! Tutto questo è zona rossa! Non mangio! Vai, mangia pure, non ti preoccupare! Anche noi! Bella Gulli, ciao, ciao! Va bene, allora, la cosa divertente è che sono già riuscito a obbligare due persone di buon livello umano in una cosa progettata da me. E quindi già questo è per me un grandissimo successo. Per dire. Vero, no? Il tutto comunque è colpa di Andrea, quindi Paolo prenditela con Andrea, perché settimana scorsa abbiamo parlato di Cannibal Holocaust, che tu mi hai fatto vedere, Paolo, ti ricordi? Quella fantastica serata di un'estate di tanti anni fa in cui mi hai costretto a vedere quel film allucinante. Che anno era? E sarà stato 2009-2010? Forse un pochino più là. Non mi ricordo. 2011? Però sì. Tanto se ti potrebbe ricordi... essere caduto 10 anni fa. Esatto, ma sai cos'è la cosa ancora peggiore? Che io mi ricordo che una di quelle sere di quella stessa estate siamo entrati in una banca mentre tu mangiavi un piatto di pasta asciutta. Te lo ricordi? Ride perché la radio... con la pasta asciutta. Ma potrebbe essere, potrebbe essere. È già... Cioè, stiamo facendo già questa cosa che è pronti partenza via o ci stiamo tipo... No, sei già in diretta. È tutto spento. Sei già in diretta, stai scherzando. Quindi si sente anche tu che dici, oh, io intanto mangio. Tutto così, tutto al naturale. Perfetto. Va bene. Ciao Gaia. Ciao. Allora, va bene, allora, dato che Andrea comunque vedo che sta giustamente mangiando, non lo disturbiamo, lanciamo a Paolo l'argomento del perché della chiamata che ha proposto lui, Andrea, e la cosa funziona così, noi vogliamo parlare di Arditi del Popolo, sappiamo che qualcuno ci ha fatto un documentario a proposito, e mi pare che questo qualcuno sia Paolo insieme ad Andrea, e quindi a questo punto parlateci del documentario e degli Arditi del Popolo. Così, a colpo basso. Vai. Beh, innanzitutto eravamo... A fare il documentario non ero solo io, ma c'è stato anche Andrea Motta, socio che ho trovato in corso perché stavamo facendo insieme un corso di documentario. E appunto facendo questo corso di documentario gli ho proposto questo progetto e insieme abbiamo cominciato a imbastirlo e organizzarlo. Per arrivare a rispondere alla tua domanda, perché fare un documentario sugli arrivi del popolo? Prima di tutto io ero un po' interessato a capire cosa succedesse in quegli anni. Quindi stiamo parlando degli anni immediatamente prima l'avvento del fascismo. E perché da quello che era la mia, le mie poche o scarse conoscenze storiche di allora, boh, sembrava che a un certo punto arriva il fascismo, no? Come se qualcuno accende una lampadina allo stesso modo, schiaccia un pulsante e arriva il fascismo. E invece, dalle prime ricerche, appunto, grazie anche alle pubblicazioni di Andrea, no, la storia non era per niente così, e bisognava un po' andare a vedere, a grattare la scorza iniziale per vedere quello che c'era sotto. E già c'erano delle pubblicazioni in corso, quindi perché fare un documentario a questo punto, ti direi? Perché secondo me col documentario potevamo mettere insieme qualcos'altro. Nel senso che leggendo un libro, una persona ha la possibilità di capire quello che sta accadendo. Tramite il documentario, invece, è quasi la possibilità di viversi quello che sta accadendo, perché il documentario ti permette di utilizzare altri linguaggi, banalmente, anche utilizzando fotografie, video più o meno dell'epoca, chi lo vede può avere un'idea più precisa di quello che accade, immaginarsi meglio quello che sta accadendo. Oppure anche banalmente andare a riprendere Parma e Roma, i quartieri popolari dove sono avvenuti gli eventi, permette a chi guarda di potersi immaginare quello che è stato e quello che è successo. E quindi quello che abbiamo fatto è stato un po' questo. Abbiamo utilizzato differenti linguaggi che il documentario ti permette, la forma del documentario ti permette di utilizzare, per ricostruire l'epopea degli arriti del popolo. Per far questo l'abbiamo fatta o intervistando chi appunto ha ricostruito il movimento, ma anche inframmezzando da riprese fatte nei quartieri storici, in particolare a Parma, nell'oltretorrente di Parma, e facendo anche una piccola messa in scena, nel senso di abbiamo chiamato un attore che non è stato puntualmente pagato per la sua interpretazione. E non come il film che dobbiamo fare noi altri, dove c'è il cast. Esatto. A cui gli abbiamo chiesto di interpretare Luigi Fabri mentre stava scrivendo la controrivoluzione preventiva, che quindi ci serviva come voce narrante quasi, per raccontare un po' quello che stava accadendo in quegli anni. Poi chiaramente abbiamo scelto Luigi Fabri perché era l'interpretazione che più si avvicinava al nostro pensiero. E quindi appunto abbiamo avuto la possibilità di anche sperimentare diverse forme che hanno portato poi alla realizzazione del documentario, che ricordiamo è del 2013. Madonna santissima, veramente? Sono sette anni? Ma no, dai, è stato solo un soffio. Ma ho tre domande. Altre domande, così subito. Allora, ci scrivono già, o meglio scrivono a lui, che ha degli amici seri, non come me. Che ci ascoltano. Esatto. Che vogliono già sapere dove si può trovare il documentario. E anche iniziamo io. Da lì. Anche iniziamo io. Da lì. Bella domanda. Allora, purtroppo il documentario non è facilmente visibile. Prometto che mi attiverò per... Facciamo vedere quelle bestemmie in redazione, scusate, non si può. Esatto, in realtà non c'è nessun documentario, è tutto un bluff, sono un attore pagato anch'io. In realtà non esiste nulla, una supercazzola gigantesca. Esatto, cioè cosa ci inventiamo per intrattenere il mercoledì sera? Esatto. E allora, il documentario, vi lascio una mail. Così attenzione, diretta radiofonica nazionale, spacciamo film. Voleva cercare degli amici, in realtà. Spacciamo la mela chiunque. Ambra, mi sa che pure un bel ragazzo, vedi che qua... Io l'ho sempre detto. Se donate un bonifico di 20 euro lo potrete vedere. Allora, no, al momento, cioè, perché il problema di fondo è questo. avendo realizzato il documentario tramite una scuola di cinema, sì, non siamo noi ad esserne i proprietari. Ma che le civiche scommetto, wow, le civiche. La storia della proprietà privata è una merda, comunque la metti, fa sempre schifo. Esatto, te la prendi sempre un po' in quel posto. E quindi il problema è questo, che diciamo lo diffondiamo a livello informale. E però se basta che andate anche su internet, Siamo del popolo gli arditi, vi dovrebbe comparire il trailer e da là potete appunto scrivere per avere più informazioni. Tra l'altro, questa è una cosa, abbiamo stampato anche questa, però tagliamola, no, mettete tipo il muto, no, scherzo. Fatto! Abbiamo stampato delle copie, quindi ci sono delle copie disponibili, appena non funziona in radio, si può uscire, posso spedire delle copie a chi fosse interessato. Bene. Ma dritto il dritto ce le ha sicuramente da vendere. Lui è il pusher ufficiale. Ah, è il tuo pusher ufficiale. Beh, che storia. Copie dai. Piratate. Mercia documentari. La questione è che lui, avendo bazzicato Bligny 42, qualche contattino mi sa che c'è ancora. Mi sa che la roba la vende anche lontano. Hai capito l'antropologo? Arrivare lontano. Lavoro sul campo, mi faccio coinvolgere. Sì, hai capito. Va bene, altre domande quasi serie. Cosa sono gli arditi del popolo? Perché lui non lo sa. Cosa sono? Vai. Ma questa la passo ad Andre, tanto ormai avrà finito di mangiare. 38, No, ma io mi chiedevo due cose prima, avevo tre domande, dicevo, no? Prima, e poi ti rispondo. Beh, una era, ma sappiamo chi sono gli arditi del popolo, però me li trovo fregato perché devo dirlo io. L'altra cosa era, ma Paulino non lo sa che non è una trasmissione seria, perché all'inizio sembrava troppo... Andrea lo sa, perché Andrea lo sa. Però ho visto che si è adeguato subito al mood, quindi bravo Paulino, non per niente siamo amici e compagni da una vita, bravo, così si fa. Zona rossa, cambio registro un attimo, non è un problema. C'è stato un attimo di defiance, se ti chiama Gulli, adesso Lorenzo è una persona che conosco poco, mi sembra una persona seria, poi anche credo un cane bellissimo che io non vedo in questo momento, però Gulli è Gulli, quindi cosa ti aspetti? Dobbiamo dire sicuramente delle cose un po' a caso. Noblesse oblige ragazzi, è così da sempre. E quindi vabbè, però anche questa domanda abbiamo risposto, e l'altra era ma abbiamo fatto il salto di qualità, cioè una video call per tutti o gli altri sentono solo l'audio? No, gli altri sentono solo l'audio, no. Sennò potevo farvi vedere la copertina del DVD, queste cose così, cioè tipo... Possiamo farti una foto mentre fai vedere la copertina del DVD e mandarla su Telegram. Dai, perché no? Facciamo perché una fotina. Ci vuole il suo consenso, Guglielmo. Va bene, ma puoi chiederglielo. Ragazzi, vi do una brutta notizia, purtroppo in questa casa non ho le copie del DVD. Però no! Quello è un complotto, però. È il solito discorso, quando ci sarà la rivoluzione arriveremo tardi, non ce n'è. È così. Grazie Paolo, grazie. Forse solo Zona Rossa ci salverà. Va bene, ma rispondiamo alla prima domanda, via. Alla prima domanda rispondo io, quindi Paolino, mi freghi. Vai Andre. Ho fatto di non essere venuto a Genova alla presentazione. Siamo stati allora... anche a Civitavecchia, tra l'altro. Grandi. Recentemente. Grandi. Io non sono mai riuscito... No, ci sono andato mille volte a Civitavecchia perché... il luogo di origine della mia famiglia, però non sono mai riuscito ad andare a fare la presentazione, non abbiamo mai incrociato i giorni giusti, purtroppo. Tra l'altro effettivamente, scusa Andrea, ti rubo solo un minuto. Apro una parentesi. Vai. Se andate a Civitavecchia c'è anche un monumento sugli arditi del popolo. È una delle poche città in Italia che ha il suo monumento di commemorazione. E allora... è così incredibile la giunta del Movimento 5 Stelle, o lo era quando è stato fatto il monumento. Che cioè, mi ricordo, però è stato finanziato dai portuali. Se dalla stazione dei portuali. Se... hai capito. È accaduto. Va bene, basta. Vai, prego Andrea. Gli arditi del popolo, per chi non lo sapesse, ma in realtà chi frequenta ZAM è preparatissimo sicuramente su questa storia. Comunque l'avevo proiettato anche a ZAM. Abbiamo fatto anche la presentazione del libro, il reading, lo spettacolo musicale, abbiamo fatto di tutto sugli arditi del popolo, però Gulli stava bevendo delle birre dietro il bancone, era distratto. Neanche, peggio, poi te lo dico in privato cosa stavo facendo. Ma non è bello, ma non è bello, ma è tranquillo. Non è mai bello. Esatto, chiedo scusa questa parentesi personale, vai pure, vai pure, vai pure. Vabbè, comunque gli eredi del popolo, per dirlo brevemente, perché l'ho detto troppe volte nella vita, sono il primo movimento antifascista del mondo, nel senso che sono il primo gruppo armato che ha combattuto il fascismo, e che si fonda appunto prima della nascita del fascismo, quindi è pre-resistenza, che tutti invece conoscono, 43-45, quindi come diceva prima Paolino, appunto, è spuntato il DVD, prima della nascita del fascismo. Quindi 1921 nascono gli eredi del popolo per combattere contro le squadracce fasciste. Cosa interessante, movimento che nasce spontaneo, al di fuori dei partiti, e che nel giro di poche settimane, addirittura in 30 giorni, arriva ad aprire 144 sedi in tutta Italia, 22.000 iscritti se non ricordo male, e cominciano a fare quello che dovevano, cioè ad attaccare le squadracce fasciste, a difendersi dagli attacchi. Attenzione, abbiamo forse un pochino perso Andrea. Paolo, tu ci senti, mi sa? Perché lui vive in montagna. Hai capito? Fai il fricchettone che va a coltivare in montagna. Che noi l'abbiamo sempre chiamato. Quindi mo mi tocca portare avanti a me la baracca, perfetto. Guarda che ci sente adesso però, parliamo bene di lui. Ah, com'è bravo Andrea, quanto studia. Quanto ne sa. Anche prima. Io sentivo tutto. Ah, ok. Non so dove sta arrivando. Va bene, allora siamo arrivati a 20.000 iscritti. Meno male. Siamo arrivati a 20.000 iscritti. No, ma... Prego, basta, non parlo più. Ma dove siamo arrivati? Dov'è che sono sparito? Perché io non sentivo tutto e vedevo tutto. Ai quindi... 20.000 iscritti. Esatto. Beh, quindi 20.000 iscritti è la cosa interessante, che nel giro di poche settimane gli eredi del popolo riescono a formare delle squadre armate, auto-organizzate, che combattono appunto manu militari i fascisti in tutta Italia e le danno ai fascisti in tutta Italia, nel senso che per i primi 6 mesi tendenzialmente riescono a sventare gli attacchi delle squadracce, ma soprattutto anche a attaccarli in più città, perché pattugliavano i quartieri e lo facevano appunto armati e cercavano di scacciarli dalle città. Riescono nel loro intento e appunto in tutta Italia si formano dei gruppi di arditi che combattono il fascismo. Nell'estate del 1921 c'è una famosa manifestazione al Botanico di Roma, dove ci sono 5.000 arditi del popolo in ex uniforme di soldato, perché molti erano stati appunto militari durante la Prima Guerra Mondiale, legati al Partito Socialista e agli anarchici e poi anche al neonato Partito Comunista, perché 1921, come tutti di voi sanno, è l'anno di fondazione del Partito Comunista Italiano. E quindi niente, in questa grande manifestazione ci sono 5.000 arditi divisi in squadre, pattuglie, che fanno capire ai fascisti che per loro non c'è spazio. E quindi insomma sono un fatto importante della storia dell'antifascismo italiano, solo che poi vengono repressi dallo Stato, vengono repressi in modo riformista, diciamo, dal Partito Socialista, che decide di firmare un patto di non aggressione in Parlamento con Mussolini, e viene represso, ahimè, anche dal Partito Comunista, che chiede ai propri militanti di uscire dagli eliti del popolo, perché i comunisti, iscritti al piccolo e neonato partito, perché appunto nel 21 erano tanti socialisti e gli anarchici in quel periodo storico, comunque anche i comunisti devono uscire dagli eliti del popolo e dell'organizzazione, perché era esterna al loro partito e quindi non potevano, come diceva Terracini, obbedire a due diverse discipline, ovvero quella del Partito Comunista e quella degli arditi del popolo. E quindi insomma c'è una disgregazione che arriva dall'alto, dallo Stato, dalle guardie, dagli arresti, e poi arriva dal Partito Socialista e dal Partito Comunista. E quindi nel giro di purtroppo altri 6 mesi gli arditi del popolo cominciano a perdere forza. E quindi la storia poi la sapete tutti, non è uno spoiler, vince il fascismo. Anche se poi in realtà si ferma a Parma. Bravo. Roma. Ma scusate, io quando avevo scoperto la storia degli arditi del popolo, in realtà l'avevo scoperta, adesso non mi ricordo più nemmeno come, però partendo proprio dalla Prima Guerra Mondiale, quindi da quello che era stata l'esperienza della guerra per molti arditi, che alla fine erano un reparto dell'esercito che ha avuto una storia tutta particolare. A me quella partenza lì della storia mi era piaciuta molto, perché spiega molto bene come qualcuno sia arrivato a diventare ardito, ma soprattutto ardito del popolo. Vabbè, adesso lo faccio breve perché non so se non mi ricordo veramente in quale risorsa testuale l'avevo trovata, però in poche parole la spiegazione che veniva fatta era questa: gli arditi erano reparti d'assalto che avevano i compiti di entrare nelle trincee nemiche di notte, piuttosto che nelle operazioni un po' più proprio da pazzi, cioè quasi che era quasi scontato che venissero uccisi, e la cosa che c'era dietro era che venivano pagati molto. Cioè avevano una paga doppia, tripla rispetto a quella dei soldati normali. Quindi ci andava a finire quelli che in realtà avevano più pressione dalla famiglia, o erano più poveri, o erano gli emarginati, quelli un po' diciamo senza niente da perdere da una parte, ma anche chi invece doveva mantenere la gente a casa. Quindi paradossalmente la gente che lo faceva rischiando la vita proprio perché doveva mantenere qualcun altro. E facendo questa cosa, molti arditi si sono resi conto di quanto fosse assurdo tutto sto teatrino della guerra. Per cui, tornati dopo la guerra, avevano messo fortemente in discussione il fatto di aver partecipato alla guerra, primo come soldati, e secondo di averci partecipato poi per la fine per sbarcare il lunario. Quando poi, tornati a casa, si erano trovati emarginati, poveri, con uno stato che se ne fregava del fatto che loro avessero rischiato la vita così tanto. Quindi boh, adesso non so magari se vi colgo impreparati sulle fonti, o se è stato un trip mio che ho sbagliato a leggere qualcosa, però a me piaceva molto quella roba lì di arrivo, cioè di nascita degli arditi del popolo. Nelle ricerche, nel documentario, nelle risorse che avete trovato voi, c'era più o meno anche questa storia, o no? Non lo so. Polino, vai tu, vado io? Vai tu. Vai, vado io. E io, diciamo, la cosa che ho trovato molto interessante è stata che cioè la guerra civile in Italia comincia appunto finita la prima guerra mondiale, e come giustamente ha detto Gulli, da una parte ci sono gli arditi che vengono arruolati da Mussolini, e dall'altra ci sono quelle persone che anche loro erano stati negli arditi, che erano questi reparti d'assalto durante la prima guerra mondiale, che si oppongono al fascismo. E quindi sì, un po' la genesi di questi arditi del popolo, perché alla fine la parola arditi deriva da questi reparti d'assalto che erano si sono stati fatti formati sul finire della prima guerra mondiale per delle operazioni che erano molto più rischiose rispetto a quello che doveva essere la guerra di trincea. Poi anche là, nel senso, non è che la vita di trincea fosse tutta rose e fiori, anzi. E in questi reparti, oltre appunto a essere presenti quelli che, come magari ha detto Gulli, c'erano anche le persone più politicizzate, perché nei reparti d'assalto non c'era, diciamo, la rigida disciplina a cui dovevano sottostare i soldati in trincea. Cioè, magari non dovevano fare i turni faticosi di guardia, eccetera, eccetera. E quindi in questi arditi confluisce, diciamo, anche l'ala a sinistra che era favorevole all'intervento militare nella prima guerra mondiale per appunto abbattere gli imperi centrali. Quindi sostanzialmente diciamo che c'è tutta una componente di sinistra che nella prima guerra mondiale impara l'uso delle armi, ma non solo, anche a fare manovre militari. E questa cosa sarà un po' la spina nel fianco nel fascismo in Europa, perché poi gli arditi del popolo non è che finiranno in Italia, continueranno a combattere in Spagna, e in alcuni casi quelli che sopravvivono continueranno anche nella resistenza italiana. Quindi sì, l'origine degli arditi appunto risale alla prima guerra mondiale. Ma poi comunque la cosa che anche mi ha colpito molto è che alla fine si pensa che l'epopea degli arditi del popolo è di 2 anni, ma se prendiamo gli anni 19, 20, 21, 22, sono successe in Italia talmente tante cose che, non so, cioè bisognerebbe fare, cioè c'è abbastanza materiale per farci un'enciclopedia, non so, mi viene in mente all'impresa di Fiume, in cui avremo anche là gli arditi che, e oltre ci sarà la partecipazione degli arditi e anche la deriva a sinistra di quella che sembrava all'inizio un'impresa nazionalistica. Sto straparlando? No, assolutamente. No. Beh, poi secondo me un'altra cosa da aggiungere molto importante, che Paolino ha sottolineato velocemente, è la questione che molti dei socialisti e molti anarchici decisero di partecipare alla guerra per imparare l'uso delle armi e poi continuare il cammino verso la rivoluzione sociale. Gulli, almeno su questo dovresti essere preparato. La rivoluzione d'ottobre, quando nasce? Dai, su questo per forza, se no cioè, direi che ti possiamo dare lo sfratto da ZAM. Cioè, attenzione. Esatto, questo è un test di cultura generale, stai rischiando. Esatto. No, scherzo, però da parte le battute è vero che c'è proprio un richiamo a questa cosa, perché la rivoluzione d'ottobre nasce proprio con quelli che stanno combattendo la prima guerra mondiale, no? come sappiamo veramente tutti, e smettono di combattere per uno Stato, un governo, una monarchia che non gli appartiene e iniziano il cammino della rivoluzione. Quello era un po' un esempio anche per gli altri rivoluzionari in giro per l'Europa. Anche gli anarchici, appunto, nel famoso manifesto degli 11 avevano partecipato con nomi illustri e importanti, dove dicevano: andiamo alla guerra per imparare l'uso delle armi, combattere, come diceva Paolino, gli imperi centrali, e poi una volta che portiamo a casa ne facciamo la rivoluzione. Gli arditi perché erano armati? Perché mica l'avevano ridate le armi. E però attenzione, la maggior parte degli arditi non sono stati arditi di guerra, questo sarebbe un errore storico. Erano quasi tutti proletari e sottoproletari che avevano partecipato alla prima guerra mondiale, ma molti non erano arditi, erano stati soldati semplici. Il fondatore Argo Secondari era un ardito in guerra, ma molti avevano partecipato alla guerra al fronte, in trincea, e tornati a casa si ritrovavano più bastonati di prima, più poveri di prima. E oltretutto gli arditi fondati da Argo Secondari, appunto alto ufficiale ardito anarchico della prima guerra mondiale, ma molto dell'appoggio iniziale era stato proprio dato dalle leghe socialiste dei reduci di guerra, del Partito Socialista. E il Partito Socialista era stato contro la guerra, era anti-interventista. Quindi vabbè, adesso poi ho detto prima che non dobbiamo fare troppo i seri, però la questione è veramente complessa, e come giustamente ha detto Paolino, sono anni in cui è successo di tutto e si arrivava dall'occupazione delle fabbriche, voglio dire, dall'occupazione delle terre, cioè erano anni in cui c'era stato il biennio rosso italiano, quindi insomma, diciamo, molto particolare. C'era anche tanta confusione fra i militanti di base su, appunto, il discorso socialista, comunista, anarchico. Pensate che quando Malatesta torna in Italia dopo l'esilio, Enrico Malatesta, uno, diciamo, dei leader del movimento anarchico, torna in Italia e viene accolto a Torino dai comunisti e dai socialisti, che lo inneggiavano come il Lenin d'Italia. Quindi e lui era dichiaratamente, era stato uno dei fondatori dell'Unione Anarchica Italiana, e quindi in critica anche tutto quello che è successo dopo la prima internazionale, per non parlare del fatto che Umanità Nova, che esce ancora adesso, che è il giornale settimanale anarchico al momento, all'epoca fondato da Malatesta era un quotidiano e stampava più o meno le stesse copie del Corriere della Sera. Cioè, quindi diciamo che c'era un proletariato molto, molto attento, ma un po' confuso dal punto di vista identitario. Questo però era positivo, perché ha dato forza agli ali del popolo, che non credevano nella separazione, quindi socialisti, comunisti, anarchici, ma nel fronte unico proletario contro il fascismo. Sì, poi secondo me sarà anche questo il punto forte, nel senso che se pensiamo per esempio alle barricate di Parma, parlare di arditi del popolo è un po' riduttivo, perché là c'è stata una vera e propria insurrezione popolare, cioè là il quartiere dell'Oltretorrente che decide di opporsi con le armi al fascismo, e in questo caso per la difesa, vai, grande, no, Paolino, guarda qua. Totale. Zoom ci offre delle cose meravigliose. Solo per noi, solo per noi. Poi un'altra foto, lo screen dello schermo, perché questa è meravigliosa. No, Andrea, mettiti. Cioè, Andrea, un antropologo di fama mondiale che si è messo sullo sfondo di Zoom la sua videochiamata con le barricate. Peccato che sia solo audio questa. Mannaggia. Ma quante perle che vi state perdendo. Invece. Perle che sono pochi potrebbero avere, ma fa niente, dai, ci proviamo. Scusami Paolo, stavi dicendo? Stavo dicendo che appunto... cioè, dove gli arditi del popolo hanno vinto tanto è stato quando proletari e sottoproletari, perché appunto i fascisti arrivavano per colpire degli obiettivi strategici, diciamo, o simbolici, quindi volevano scendere nell'Oltretorrente per punire un quartiere proletario, in questo caso stiamo parlando di Parma, e in questi quartieri il popolo insorto si affida agli arbitri del popolo che organizzano una difesa, e questo permette appunto di poter combattere e rispondere colpo sul colpo. Poi scusate, mi viene in mente anche riguardo al discorso che faceva prima di Gulli, attenzione, adesso c'è un po' di silenzio perché Zoom si è un attimo impallato, ma si riprenderà, speriamo, ci proviamo, vediamo, alleggerendo un po' la comunicazione, speriamo. Sennò come si fa in questi casi, Carlo Lorenzo? Si chiude, si riapre o... Praticamente sì, però secondo me non siamo a caso potete, esatto, fare un bel disegno di una cetta che abbatte un fascio littorio, così riprendete uno dei simboli più importanti degli arditi del popolo. Sei venuto bene in questa foto, complimenti. No, questa è una delle mie foto migliori. Paolo, però purtroppo ti abbiamo perso a un 30 secondi fa, perché c'è stato un po' un blocco della telecomunicazione. Quindi, no, ma è bello parlare per minuti e minuti e vedere. Ma chi è questo cane, tra l'altro? Allora, in realtà dobbiamo chiedervi questa cosa. Se possiamo richiamarvi, perché questo maledetto servizio deve essere rinnovato ogni tot. Noi chiudiamo questa chiamata e ne apriamo subito un'altra. Restate lì, caldissimi. Perfetto. Rifacciamo la chiamata. Ciao. Va bene così, perché tanto le parole importanti sono quelle di Paolo e Andrea, che ci stanno raccontando del documentario Stand del Popolo Gli Arditi, realizzato qualche anno fa nel 2013 dal buon Paolo, con l'aiuto di un altro suo amico di cui ci faremo ripetere il nome perché siamo stati troppo pressapochisti, non abbiamo preso nota. Stavamo parlando del fenomeno del movimento degli arditi del popolo. In questo momento Paolo ci stava offrendo una rilettura dei moti di Parma, che non sono solamente una risposta militare organizzata da parte degli arditi del popolo all'invasione dei fascisti, ma soprattutto una risposta del proletariato di un quartiere di Parma che è insorto contro l'attacco dei fascisti, e è insorto grazie all'aiuto delle formazioni organizzate degli arditi. Paolo, credo che ci stia già di nuovo sentendo. Paolo, ci senti? Non ci senti. Adesso mi sento, vai, seconda parte. Seconda parte, fantastico, mi piace quanto sei carico, meraviglioso. Adesso aspettiamo che quel perdigiorno di Andrea si riconnetta, mentre nessuno dica che... Deve uscire fuori, alzare, inumidire l'antennina con la saliva. Esatto, deve attaccare, fare un giro con lo scotch, torna alla casa per tenere l'antenna attaccata, esatto, alla parete. Spargere un po' di sale per terra e forse riuscirà a connettersi. Beh, ma noto nella tua voce pochissima credine nei suoi confronti e la sua scelta di fricchettonaggine. Ops, si dice così. No, è della sua scelta di eremitaggio in montagna. Ma è tutta invidia la mia. Ah, perché tu vorresti andare là. Vabbè, quando andrei. Va bene, allora Paolo, dai, continuiamo. La questione che tu ci stavi appunto dicendo, che in realtà gli arditi del popolo non hanno vinto da soli. Gli arditi del popolo hanno vinto soprattutto laddove il proletariato e sottoproletariato si univa per rispondere all'attacco dei fascisti. Ecco, io avevo... Sì, perché comunque stiamo parlando di una lotta al fascismo che era una lotta di classe, che è diverso secondo me da quello che c'è dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale anche i monarchici saranno antifascisti, ma in un primo momento, quindi negli anni della Marcia su Roma, chi si oppone al fascismo è il proletariato, il sottoproletariato, perché sono quelli che si stanno prendendo le mazzate, perché sono quelli che hanno provato a occupare le fabbriche, perché sono quelli che chiedono la distribuzione della terra, e quindi sono quelli che devono essere più colpiti duramente dal fascismo. E allora, nelle situazioni di rivolta, si affideranno agli arditi del popolo, che grazie alle loro conoscenze militari potranno organizzare la difesa, come appunto nel caso di Parma. Adesso sto dicendo quello più eclatante, ma in quegli anni, cioè in quel periodo, succede di tutto, anche perché tutta cade a seguito della dichiarazione dello sciopero legalitario, e quindi il fascismo si muove ovunque per estirpare le difese socialiste. Cioè, quando poi dico socialista intendo tutto quello che c'era. Ma ascolta, scusami un secondo, perché prima di andare avanti avrò altre domande da farti. Ma a questo punto la domanda che tu dicevi giustamente è prima della... cioè la domanda riguardo a quello che tu dicevi è questa. Tu dicevi prima della Seconda Guerra Mondiale l'antifascismo è una lotta di classe, perché sono i proletari quelli che occupano le fabbriche, sono i proletari quelli che vogliono le terre, e i fascisti sono quelli che devono impedire questa cosa, perché sono, diciamo, il braccio armato della borghesia. Ma la domanda è questa allora, i fascisti chi erano? Cioè che composizione sociale faceva parte del movimento del fascismo in quegli anni? Ma qua ci vorrebbe Andre, che è più storico di me. Dove cazzo è finito quello là, maledizione? Vabbè, ma dai, inizia... cioè, innanzitutto partiamo da Mussolini, che era un ex socialista. Quindi già questa la dice, nel senso che il suo programma era un socialismo nazionale, se vogliamo. Che comunque era una cosa che veniva inneggiata da un po' tutti gli estremismi di destra di quel periodo. Poi in realtà dirti qual è la vera composizione del fascismo allora è complesso, perché comunque il fascismo, il Partito Nazionale Fascista, si crea in quegli anni. Però di fatto in quel momento, almeno per me, il fascismo è il braccio armato degli industriali, che vengono finanziati appunto dagli industriali per punire, cioè reprimere, distruggere i giornali, attaccare le case del popolo. Quindi parlare di una vera composizione, secondo me, è un po'... non lo so, non ti saprei dire. O comunque, di sicuro ci possono essere reduci di guerra, perché sono quelli, cioè magari gli ufficiali, che vengono contattati da Mussolini, che chiamano le loro conoscenze per creare le bande armate. Abbiamo anche futuristi con il Fido Marinetti, che cerca nel fascismo, appunto, diventa quello l'aspetto più culturale del fascismo. Ci sono quelli che saranno i vari esponenti dell'aristocrazia agraria, industriale. Poi il fascismo si confronterà con la classe media, però non l'ha ancora assimilato in quegli anni. Farà successivamente per diventare effettivamente un movimento di massa. Questo sto andando un po' a, secondo me, ci tengo a dirlo. E... quindi sì, diciamo che in quel momento, cioè negli anni, il fascismo nasce perché viene finanziato dai ricchi. Se non ci fossero i ricchi industriali, i ricchi, i proprietari terrieri, il fascismo, sarebbe un'altra cosa probabilmente. Certo. Ma quindi tu praticamente andresti quasi a definire che i fascisti, quelli che facevano gli attacchi, quelli che comprendevano le squadracce, erano tra virgolette delle specie di mercenari, cioè persone prestate a fare lavoro per qualcun altro con le loro motivazioni soggettive. Sì, erano quelli che facevano il lavoro sporco. Dei sicari praticamente. Erano praticamente dei sicari, erano degli esponenti di una classe sociale che da quella roba lì era conscia di ottenere qualcosa, o anche inconsciamente voleva ottenere qualcosa, erano lì per fare quello cosa. Probabilmente quando Mussolini ha fondato il fascismo, cioè nel Partito Nazionale Fascista c'era questo senso di rivalsa, se vogliamo, o identitario nell'avere un futuro per i reduci, tra virgolette. Però anche là, cioè comunque la spaccatura era forte, perché abbiamo anche, cioè sono gli anni in cui il Partito Socialista ha più consensi, perché chiaramente ci sono tutti i reduci che tornano dal fronte mutilati, invalidi, che non erano pochi, erano tantissimi, e quindi sentono che quello per cui hanno combattuto non è stato niente, e quindi appunto vanno a ingrossare le fila del Partito Socialista. Però sì, assolutamente, all'inizio, secondo me, il fascismo erano bande armate con quello che aveva definito Mussolini, quel programma di Mussolini, diciamo. Ok. Nel frattempo vediamo che finalmente si riesce a collegare lo scotch con l'antenna e quindi... Esatto, sono dovuto salire sul tetto della casa per colpa vostra, ero già in pigiama, cazzo. Chissà che vista. Ti stai prendendo un freddo della Madonna, se c'è vento lì da te come qua c'è a Milano, stai congelando. Sì, sì, è freddissimo. Mutande di lana sotto il pigiama. Va bene, allora, mentre tu non c'eri, io dopo questa domanda voglio farla perché ovviamente un po' ci tengo. Mentre tu non c'eri, abbiamo chiesto a Paolo qual era secondo lui la composizione del fascismo, perché lui, prima che interrompessimo la telefonata, diceva l'antifascismo prima della seconda guerra mondiale era un movimento di classe, perché era un'opposizione di proletari e sottoproletari che venivano attaccati da, di fatto, il braccio armato di industriali, agrari, magari anche potere dello Stato, tutte quelle le casse sociali superiori che avevano bisogno di qualcuno che mettesse a tacere il popolo che, appunto diceva adesso Paolo, era abbastanza organizzato, era abbastanza anche fomentato dal Partito Socialista, che era anche comunque in grande ascesa in quegli anni. La domanda a questo punto era: chi era e che cos'era il fascismo allora, in quel momento, mentre c'erano vivi gli arditi del popolo? Era esattamente la reazione di una classe, tu hai detto superiore, inferiore, di aggiungere io invece, di chi voleva mettere a tacere tutte le conquiste del proletariato. E questo era il fascismo, cioè la brutalità del capitalismo che, messo sotto scacco da svariate forze rivoluzionarie, doveva trovare dei cani da guardia, e quei cani da guardia sono state le squadracce, che poi hanno teorizzato quella che viene chiamata appunto la rivoluzione fascista, ma all'inizio non erano altro che un movimento di reazione alle conquiste che, appunto, come dicevamo prima, erano state fatte in Italia, perché se vogliamo fare un parallelismo fra i tre grandi fascismi, cioè il fascismo italiano, il nazismo tedesco e il fascismo spagnolo, dove sono nati in tre paesi, in tre contesti, dove la rivoluzione, quella invece internazionalista e proletaria, era vicina. C'erano le repubbliche di Weimar, in Italia appunto occupazione di terre, Biennio Rosso, Partito Socialista in totale ascesa, nascita del Partito Comunista, movimento anarchico molto forte. In Spagna uguale, in Spagna l'anarcosindacalismo contava milioni di iscritti, c'erano le collettivizzazioni delle terre, quindi ovunque c'era una forza rivoluzionaria socialista, si è cercato di creare un fascismo per porre freno a queste conquiste. Io ho finito, Ok, cioè, no, scusami, che stavo appuntando, perché io sono così... Vivevano dalle tue labbra. No, devo proprio scrivere, perché sennò mi dimentico le cose e poi faccio una domanda che ho fatto. No, invece, l'altra cosa che io ci terrei, dato che voi due ne sapete abbastanza, è, cioè, gli arditi del popolo, prima dicevi Paolo, hanno fatto un sacco di cose, tra il 20 e il 22, una burrasca di avvenimenti ovunque in tutta Italia. Purtroppo, magari, dato che non se ne è parlato molto in questi ultimi 70 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, degli arditi del popolo, quello di cui si parla spesso è Parma, l'oltretorrente, quella battaglia lì, quella vicenda lì. Cioè, se si riesce a fare una rapida carrellata di altri eventi che riguardano gli arditi del popolo in giro per l'Italia, perché sennò sembra che sia tutto quanto lì, in quelle settimane, in quel luogo geografico e basta. E invece, sarebbe bello scoprire altri avvenimenti che riguardano gli arditi del popolo in giro per l'Italia. Prego. Io, Paolo? No, Andrea, tu, dai, che c'è scritto un libro. Io personalmente mi ricordo Viterbo, in cui proprio la popolazione di Viterbo insorge, ma in quegli, cioè magari anche prima dello sciopero delle legalità, adesso purtroppo non mi ricordo esattamente le date precise, perché appunto sono talmente tanti eventi che o ce li ho sotto mano o faccio fatica a ricordarli tutti. Sicuramente Civitavecchia, se non sbaglio anche a Bari è dovuto intervenire la Marina, perché c'era stata un'insurrezione popolare in cui si erano assaltate anche le carceri. Però su questo non lo so, Andre, tu ti ricordi? Hai la mente lucida della mia? Estate del 1921, ce ne sono due mitiche. Una è la famosa Sarzana, che c'è anche un film che la narra, in cui i fascisti vogliono colpire Sarzana per far vedere che sono forti. Sarzana è una città, era una città molto, insomma, molto rivoluzionaria, dove gli anarchici erano fortissimi, anche i socialisti, e quindi Mussolini vuol far vedere che lui, insomma, con le sue squadracce può andare lì e fare quello che vuole. Fatto sta che raduna un botto di fascisti in Romagna, prendono il treno per arrivare a Sarzana un sabato, una domenica pomeriggio. Gli arditi del popolo riescono a sapere da dei ferrovieri. Mi sentite? Sì, sì, assolutamente. No, perché vedevo Paolino screcciato. Comunque riescono a sapere, appunto, che stavano arrivando questi fascisti in treno, e cosa fanno? Si radunano tutti armati nella stazione della città, mettono dei tronchi di albero sulla via ferrata. Quando arrivano i fascisti, il treno deraglia. Questi non riescono neanche a entrare nella città, che si ritrovano bomba a mano, spari, sono svariati morti fra i fascisti, che scappano a piedi dalla città di Sarzana, e gli arditi e gli insorti li inseguono fino nelle campagne per prenderli a bastonate, farli scappare e sparargli. Quindi Sarzana direi mitica. Altra molto interessante è quella di Civitavecchia, dove Mussolini la settimana o due settimane dopo Sarzana dice: vabbè, ma vi faccio vedere, io vado in un'altra città simbolo, che era Civitavecchia, dove c'è stato il secondo, diciamo, capo degli arditi del popolo, era proprio di Civitavecchia, dopo il fondatore era stato dato in mano all'associazione nazionale a un militante di Civitavecchia. Insomma, Mussolini vuol far vedere che ce la può fare, arriva a Civitavecchia, e anche in quel caso gli arditi si fanno trovare pronti, barricate, vari fascisti morti, scappano anche lì correndo dalla città, e per grande sfortuna dei fascisti a Civitavecchia, oltre agli arditi, oltre agli insorti fra socialisti, anarchici e comunisti di Civitavecchia, in caso vuole che in quei giorni c'erano 500 operai serbi, se non ricordo male il numero è questo, che stavano costruendo, finendo di costruire la stazione di Civitavecchia, e ovviamente si uniscono agli insorti, e anche loro danno mazzate come se non ci fosse un domani ai fascisti. Quindi questi due aneddoti sicuramente sono interessanti, ma ce ne sono tanti altri, vari, giustissimo, come ricordava Paolino, Viterbo, ma poi ci sono le insurrezioni del quartiere San Lorenzo di Roma, poi c'è Taranto, ce ne sono veramente tante di storie magari meno famose, ma dove gli arditi, appunto, hanno fatto quello che dovevano. Che meraviglia! Assolutamente. Infatti è uno di quei periodi storici per cui uno c'è proprio il rammarico, perché dice: ma perché non è andata diversamente? Infatti a questo punto, prima l'avete già detto giustamente, un po' la frammentazione legata agli altri movimenti della sinistra, un po' la repressione del fascismo, un po' la repressione di Stato, ma cioè, come mai non sei riuscito a fare in modo che il movimento dei diritti del popolo diventasse di massa, diventasse abbastanza grande da fermare del tutto l'avanzata del fascismo in Italia? Domanda. Dal mio punto di vista, perché c'era, da una parte il discorso che facevamo prima di un partito socialista in ascesa, che però aveva fatto la scelta di diventare riformista e entrare in Parlamento, e quindi doveva assolutamente accettare quello che Ivano Bonomi, che era appunto il ministro degli interni, se non vado errato, o il primo ministro, ma ministro degli interni, Ivano Bonomi, diceva: non possiamo risolverla con le armi, perché se no si crea una guerra civile, dobbiamo farlo noi che siamo lo Stato e voi siete un partito importante dello Stato, quindi retorica riformista. Dall'altra c'era invece il delirio identitario, capibile da un certo punto di vista, perché era neonato del partito comunista, che però anche all'interno stesso del Partito Comunista, sia chiaro, giusto per chi magari non è ferratissimo del periodo storico e ci sta ascoltando, in realtà all'interno dello stesso Partito Comunista c'era un bordello, cioè non è che erano tutti d'accordo con Terracini e Bordiga, perché lo stesso Gramsci, che non era un personaggio di secondo ordine, voglio dire Antonio Gramsci, era un sostenitore degli arditi del popolo, ma lo stesso Lenin sulla nel 1921 scrive di suo pugno che gli arditi del popolo sono un esempio da seguire, eppure sia Terracini che Bordiga che altri vertici del Partito Comunista insistono per far sì che si esca dall'organizzazione degli arditi del popolo, e quindi gli arditi crollano per questo, perché l'unica formazione che li sosterrà fino all'ultimo sono gli anarchici nelle tre nei tre gruppi che avevano, che era appunto l'Unione Anarchica Italiana o il Partito Anarchico Italiano, perché in quegli anni volevano fare il partito anche degli anarchici. Poi c'era l'Unione Sindacale Italiana, quindi l'anarcosindacalismo, e poi c'erano gli individualisti, che erano sicuramente molti più di quelli che sono oggi, ma comunque non potevano bastare per far sì che diventasse un movimento di massa, e ci voleva proprio l'unione di socialisti, comunisti e anarchici, e questo non è avvenuto per problemi di egemonia e di identità, problema che ancora tutt'oggi a volte ci attanaglia all'interno dei movimenti. Già. Purtroppamente. Che bomba, che bomba. Ma vabbè, allora a questo punto cose più semplici. No, mi fanno cenno di... No, ah, cose più semplici. Mi dicono di guardare il telefono, l'orologio, si manca il telefono. Vabbè, una roba più semplice, più facile, giusto per metterla sul piano del documentario. Quanto dura il girato? Quanto ci avete messo a farlo? Come l'avete deciso di prenderla? Non so come dire, più sull'aspetto anche un pochino tecnico bello delle immagini che avete proposto. Quali sono state le scelte di regia? Ma allora, il documentario dura 45 minuti, più o meno, una quarantina di minuti, 45, adesso non mi ricordo esattamente. E le riprese le abbiamo fatte sia a Parma che a Roma che a Milano. E alcune Milano e Roma per delle scelte di tecniche, nel senso che là c'erano le persone a cui fare le interviste, mentre Parma l'abbiamo messa dentro perché, vabbè, se tutto era vicino, chiaramente, noi abitando a Milano... C'era facile sicuramente più raggiungere Parma che Roma, ma poi perché ci piaceva includere, dedicare una parte di quel documentario a quel momento, a quella città. E, come l'abbiamo fatta? Cioè, i momenti più divertenti sicuramente sono stati quelli a Roma, perché siamo andati io e Andre, ma mi sentite? O... Sì, sì. Ok, scusate, ogni tanto date un consenso, così se no mi sembra di parlare da solo come prima. E la parte più delirante è stata a Roma, perché eravamo in due con tutta l'attrezzatura, con i mezzi, cioè con i mezzi a Roma, con l'attrezzatura, già immaginatevi la scena, cavalletti, telecamere, cioè eravamo sul tram e a un certo punto tram bloccato perché c'era una macchina in tripla fila, di scendere e andare a piedi praticamente. Siparietti esileranti sempre sul tram con preti che parlavano di cose astruse, e quindi è stato un po' così. Abbiamo messo insieme, poi dove eravamo facevamo anche delle riprese dei quartieri popolari, quindi oltre a fare le interviste abbiamo inframmezzato con le riprese fatte da noi e con del materiale di repertorio che siamo riusciti a trovare, materiale di repertorio proveniente dalla Cineteche, ma anche e soprattutto i giornali dell'epoca, perché li abbiamo utilizzati per ricostruire la storia, visto che erano lo strumento principale di comunicazione del periodo. Quindi molto lavoro è stato fatto anche di recuperare le copie digitali per avere gli strumenti da utilizzare poi in fase di montaggio. Prego. Ma quindi c'è un lavoro molto abbondante in post-produzione, immagino. Chi è che si occupava della post-produzione? Ci siamo occupati un po' tutto di tutto. Infatti la cosa che è stata divertente è stata questa. Io magari ci ho messo più l'idea iniziale, però poi eravamo in due a gestirci un po' tutto. Quindi nelle riprese magari uno si occupava dell'audio, l'altro del video, e poi in post-produzione ci siamo messi tutti e due davanti al computer a scegliere cosa mettere e cosa non mettere. Che litigate che giustamente vi potete immaginare, perché chiaramente sì, ma poi voi non potete capire, voi non conoscete Andre, cioè l'altro Andre, una delle persone più meravigliose di questa terra, cioè io ho soltanto il ricordo che ho, io non, all'epoca credo che è stato il primo video che ho deciso di farmi fare, sì, credo che è stata la prima volta che ho accettato il video. Abbiamo in questo modo, quindi. Esatto, in casa mia oltretutto, con Argo presente, che era il mio cane. E... Argo per Argo Secondari, fondatore degli Aliti del Popolo. Ovviamente, cioè, adesso lo sappiamo perché. Importante. E c'era questo Andre che io ho conosciuto, credo proprio in quel periodo e per questo film, che poi è diventato invece un caro amico, che è fuori di testa in senso positivo totale, e quindi cioè, ci siamo morti dal ridere con le lampade, le cose, i microfoni, le giraffe. Sì, perché siamo entrati a casa di Andre che continuava a portare dentro materiale, cioè non la finivamo più. No. Io non ci potevo credere. Una produzione di Hollywood praticamente. No, ma infatti devo dire che questo amico è stata la persona giusta al momento giusto. Quindi ogni tanto, come dire, il caso vuole che... Talvolta serve. Ma allora un'altra domanda, ma scusami. Ma la, invece per quanto riguarda fare ricerca storica sugli arditi del popolo, un argomento che è stato cancellato anche dalla sinistra, perché non è che dopo la Seconda Guerra Mondiale il Partito Comunista piuttosto che gli altri partiti o i movimenti antifascisti hanno ritirato fuori gli arditi del popolo, cioè se ne sono quasi come dimenticati e non se ne è più parlato, ed è un argomento che appunto è venuto tanto fuori, io credo, penso, in base alla mia percezione, cioè quando era all'elementare non se ne parlava degli arditi del popolo, non si parlava di Oltretorrente, nel sussidiario non c'era l'opposizione al fascismo, sembrava un'unica colata di nero dal 19 fino al 22, via, tutto il fascismo, violenze, sì, lo squadrismo, eccetera, ma nessuna risposta mai. Adesso invece fare ricerca sugli arditi del popolo è facile, difficile, c'è il materiale, non c'è, cioè viene ostacolato il fatto che esce materiale per qualche astruso motivo o cosa? Ma allora io ti posso dire per la mia, dal punto di vista video, è stato possibile grazie agli archivi digitali, sicuramente, cioè il fatto che ci siano stati delle copie digitali di Umanità Nova e altri quotidiani ci ha aiutato ad avere un sacco di materiale. E quindi da una parte noi abbiamo sfruttato tutta quella che è la raccolta di documenti dell'epoca, fotografie, video, riviste. C'è stato anche qualche produzione un po' più simile, adesso non mi ricordo esattamente il titolo, però c'era stata tutta una sceneggiata Rai, cioè un documentario Rai che ripercorreva degli anni 70, questo penso che fosse, che ripercorreva tutta la genesi del fascismo, e anche da quello abbiamo preso, perché appunto c'erano le interviste agli esponenti politici del tempo. Quindi un po', cioè qualcosa c'era, la nostra capacità è stata riuscire a prendere un po' da quello che c'era. Poi sulla parte più libresca mi può rispondere Andre, penso. Ma per me è stato un percorso di laurea, cioè mi sono laureato in storia contemporanea sugli arditi del popolo. E quindi ho fatto un lavoro di archivio, quindi sono andato negli archivi di Stato, negli archivi di Polizia, cioè ho fatto il lavoro da storico, e si trovano le cose. E in più, dagli anni 70, in realtà, molto del movimento della sinistra extraparlamentare, anche di matrice marxista, ha assolutamente cercato di fare studi sugli arditi del popolo. Basti pensare che la testata di Lotta Continua, se ce l'avete un attimo in mente, sopra la scritta Lotta Continua c'erano proprio le barricate di Parma, quindi c'è una sorta di rivedere la storia dell'antifascismo in critica al Partito Comunista di un certo tipo, no? E quindi comunque c'è materiale, c'erano poche monografie. Quando io sono uscito con il mio libro, che poi è stata la mia fortuna editoriale, diciamo, di quel libricino, c'erano 6 libri sugli arditi, 7, cioè pochissimi in effetti, se pensate che ce n'erano 20.000 sulla resistenza, quindi in effetti era un qualcosa di poco narrato. Oggi ce ne saranno, non lo so, 30, comunque pochi, non tanti. Nell'ultima edizione del mio libro, e non lo dico per far pubblicità, anche perché tanto credo che sia esaurito in questo momento, e l'editore purtroppo, è, come tutti gli altri editori, credo che abbia messo tutto in cassa integrazione o cose simili. Comunque, nell'ultima edizione abbiamo trovato un documentario degli anni 60 della Rai, solo sugli arditi del popolo a Parma, in cui intervistano gli arditi di Parma, e ne abbiamo sbobinato, tenendo il dialetto anche, le interviste degli arditi che raccontano le barricate. E oltretutto molto divertente, perché in questi giorni dovevo uscire in Germania l'edizione tedesca del mio libro, e la traduttrice era impazzita per tradurre il dialetto parmense, e ci sono stati degli scambi di mail molto divertenti con la traduttrice cioè dall'italiano al tedesco, solo che anche lì c'è il Covid-19 e quindi il libro non esce. E quando è uscito in Grecia invece, anche qui molto interessante, quando è stato tradotto in greco il mio libro è andato benissimo, perché erano gli anni, insomma, quelli delle varie rivolte contro il partito neofascista, fascista, certo, greco, e anche in Grecia c'era stato un grande dibattito sugli arditi del popolo, e credo che forse era il primo libro che usciva sugli arditi del popolo in Grecia. Anche in Spagna uguale, in Spagna quando avevo fatto le presentazioni era interessante perché si parlava del parallelismo con la guerra civile spagnola, insomma, comunque diciamo che c'è poca roba ma comincia a circolare, e sicuramente in Italia un grande libro è quello di Luigi Balsamini, quello di Marco Rossi e quello di Eros Francescangeli. Io mi sento di citare questi che sono sicuramente meglio del mio, insomma, più approfonditi. Comunque è incredibile il documentario del 60 della Rai, cioè la Rai arrivava veramente ovunque a volte. Sì, era stupendo. Oltretutto. Incredibile. Ma vabbè, io ci avrei un'ultima domanda da 25 minuti, mi piace, Lorenzo la farà, poi a un certo punto andrà a mangiarsi una pizza perché sono le 10 e non mangiamo dalle 7. No, la domanda allora a questo punto è questa, che è mega ampia, forse anche in parte l'ho anche già fatto stasera, ma non me lo ricordo già più. Perché è stata dimenticata la lotta degli arditi del popolo? Cioè, perché nel 47, a guerra finita, qualcuno non ha iniziato a urlare? Noi eravamo gli arditi, non lo dicevamo, non l'abbiamo fatto, ci avete frammentato. Cioè, perché non è emersa dirompente l'esempio degli arditi del popolo come un movimento militarizzato anche contro il fascismo? Se c'è una spiegazione, ma penso che ce ne saranno un milione. Perché non sono digeribili per una questione democratica e nazionale. Gli arditi del popolo erano lotta di classe e quindi non potevano essere digeriti da un comitato di liberazione nazionale. Considera che molti arditi che hanno combattuto la resistenza sono stati fatti fuori da proprio subito dopo. Cioè ammazzati o morti per incidente stradale, morto per spariti, cioè sono stati proprio fatti fuori dopo che hanno combattuto la resistenza. Addirittura adesso non mi ricordo, ho un vuoto di memoria, uno dei comandanti arditi di Piacenza e comandante della lotta partigiana del 43-45 che magicamente il 28 aprile viene investito a 200 all'ora da un gippone americano mentre stava camminando in strada. Quindi insomma diciamo che non è stata proprio, non era digeribile dal nuovo sistema democratico che doveva nascere la storia della resistenza degli arditi. Ci sono voluti gli anni 70 per poterlo fare, perché da una parte i democratici, lo Stato, i liberali non potevano ammettere l'incomprensione che c'era stata, dall'altra il Partito Comunista non poteva, in un momento in cui non poteva criticarsi, ammettere un errore come quello che aveva fatto. E vabbè, gli anarchici, come sapete, dopo resistenza l'hanno vista un po' brutta e sono stati gli ultimi a essere liberati dai campi di detenzione, insomma non era facile, ed erano gli unici che continuavano a parlare dei diritti del popolo. Negli anni 70 invece, come dicevamo prima, svariati movimenti extraparlamentari, quasi tutti, hanno cominciato a riparlare dei diritti del popolo, anche i maoisti, pensate, perché c'è un libro molto bello di Del Carria che si chiama Proletari senza rivoluzione, in cui narra la storia di tutte le rivoluzioni mancate in Italia e non solo, e parla degli arditi del popolo come un momento mancato per la rivoluzione possibile. Del Carria era uno storico marxista maoista. Ok, l'ultimissima cosa, ve lo giuro, era questa, ma potevo andare avanti per parlare per ore. No, la cosa era questa, una considerazione iniziale. Gli arditi del popolo, c'è stato qualche proletario anarchico, socialista, anche comunista, che si è iscritto, è andato in guerra, mi sembra la parola sbagliata, che è andato in guerra per imparare il mestiere delle armi per poi fare la rivoluzione. Gli arditi del popolo hanno stravinto tutte le volte che sono usciti a combattere il fascismo sul loro terreno, sul terreno della violenza, dell'intimidazione fisica, del combattimento, dimostrando valore militare e tecnico proprio alto, altissimo, che era nato bene nell'esperienza della prima guerra mondiale. La sinistra, da lì in avanti, dopo anche l'esperienza della resistenza, sembra volersi dimenticare di quella parte lì. Cioè il fatto che a un certo punto tu ti possa anche inquadrare in una roba che sembra un esercito, con dei comandanti, con quel tipo di funzionamento, con quel tipo anche di strategia e di intenzione, la sinistra extraparlamentare se lo dimentica completamente. Come se non fosse poi dopo gli anni 70, dove alcune brigate c'erano ancora, cioè tutta questa parte qua di storia viene rimossa, per cui rimane soltanto il rifiuto totale del militarismo, dell'atteggiamento militarista, del concetto di utilizzo della forza anche organizzato, non so come dire, più del scontro di piazza. questa cosa qua di Artigli del Popolo a me è sempre sembrata molto dirompente, perché cioè, nel senso, è la dimostrazione che talvolta forze di estrema sinistra e di opposizione al fascismo possono anche avere forme disciplinate, ordinate, organizzate come un esercito. Non so come dire. Ma guarda, durante il documentario una delle parti più divertenti è quando William Gambetta, che è lo storico di Parma, parla di quello che accade nell'Oltretorrente. Cioè, quello che accade nell'Oltretorrente in quegli anni era una cosa normale. Non è che era l'evento straordinario in cui la popolazione dell'Oltretorrente insorge, ma era una pratica quotidiana, nel senso che era per loro, certe attività erano un po' delle attività di palestra. Di palestra rivoluzionaria, se vogliamo, o comunque perché c'era una sbirraglia che arrivava spesso a pizzicare le persone nei quartieri proletari e sottoproletari, e allora quindi questi quartieri si dovevano difendere. Ma è una cosa che, cioè, dove appunto dove le persone erano più abituate, pronte a, si è arrivato a vedere subito una risposta più diretta. Ok. E poi storicamente bisogna, cioè, essere onesti con il fatto che non è paragonabile l'utilizzo della forza, il concetto stesso della violenza e della morte per dei proletari e dei sottoproletari del 1920 e noi oggi homo comfort abituati al benessere e addormentati dal capitalismo. Cioè, per determinate persone era ben diversa la quotidianità. E quindi, come diceva Paulino adesso, ci si comportava in modo differente perché la vita era differente. Noi oggi non abbiamo proprio, non possiamo comprendere antropologicamente, secondo me, anche il fatto che il simbolo degli arditi fosse un teschio con il pugnale, no? Era proprio un sbeffeggiare la morte, era sapere che comunque non avevi niente da perdere nella vita. E quindi per cambiarla avresti fatto di tutto. Questa per me, vabbè, poi è la cosa che mi interessa di più, è quella, la questione antropologica degli abiti del popolo, cioè proprio la scelta umana di queste persone e la loro condizione, che era il motivo per cui li ha portati a determinate scelte. Poi dovremmo aprire un dibattito troppo lungo, ma mi sembra che siamo stati fin troppo seri, che è quello del militarismo e dell'esercito. In realtà gli abiti del popolo non avevano una vera visione, secondo me, ma qui c'è un grande dibattito militarista della questione, soprattutto non erano un esercito, era qualcosa di un po' differente, nel senso che considera che appunto il capo e fondatore massimo, Argo Secondari, anarchico, viene cacciato perché le assemblee regionali decidono che Argo Secondari, alto ufficiale e capo degli abiti del popolo, era troppo autoritario, è troppo militarista, gli dicono: sai che c'è, rimai dentro gli arditi del popolo ma te ne vai a fanculo. Quindi era molto interessante che ci fosse anche questo livello di autogestione e decisione collettiva nelle scelte degli arditi del popolo. E in più l'altra cosa molto importante è come le donne si sono comportate all'interno degli arditi del popolo e l'importanza che nella prima lotta armata antifascista hanno avuto le donne, che usciva proprio dal discorso del blocco esercito o militarista tout court. Comunque sia, sicuramente avevano delle derive militariste autoritarie, ma erano avanzati, secondo me, da questo punto di vista per essere il 1921. Va bene. Allora, io a questo punto potrei promettervi cose orrende, tipo ci risentiremo e faremo una puntata monografica solo su questo. Lo farà. Ma per ora magari mi trattengo. Lo farà. A questo punto, boh, non so, siamo in balia di Andrea e anche di Paolo. Proponeteci voi su cosa fare il collegamento settimana prossima, altre persone a tirare in mezzo, altri temi di cui parlare, se avete altri documenti che avete fatto nella vostra vita. Potremmo riparlare di Cannibal Holocausto, potremmo spiegarti, Paolo, perché abbiamo parlato di Cannibal Holocausto con Andrea, che tanto ci ha mandato a ramengo la nostra fantastica idea che abbiamo avuto la mattina stessa, della puntata. Ma va bene, tutte queste minacce avranno seguito, abbiatene certezza. Beh, una buona idea potrebbe essere fare lo switch, non invitare più me, ma invitare solo Paolo, che probabilmente questo mi sembra pensieri in libertà. È un bel pacco questo. Oppure sta affidando a Paolo un grandissimo pacco. Cioè, sta tirando il pacco a Paolo e si sta sfilando con sta dando la patata bollente a Paolo e paccando noi. Te la sta smarcando bellamente. In una botta sola. E no, non glielo permetteremo. Continueremo a chiamarlo orari improbabili. A questo punto, però, ci si impone un attimo di chiudere qui. Ma con stile come la nostra solita cosa. Se Andrea non si offende, ma possiamo anche ascoltare la canzone che ci ha proposto lui. Tanto sta per scaderci il tempo, ma abbiamo ancora 10 minuti. Quindi ci dici, Paolo, che canzone vuoi ascoltare adesso? E Andrea, che canzone vuoi ascoltare adesso? E la manderemo due di fila. Esatto. Che canzone? No, allora, dovete mandare la canzone che conclude il documentario degli Arditi del Popolo. Oh, questa ci piace, l'original soundtrack, quindi. Dici. Cioè, Amore Ribelle. Ok. Amore Ribelle. Tropea, no. Pietro Gori. Pietro Gori? Pietro Gori. Pietro Gori. Però aspetta, non so se... Oh, Madonna, Madonna, Madonna. È successo? No, beh, niente. Che ci sono troppe versioni. Pietro Gori, 13.000 visualizzazioni, caricata il 28 settembre 2012. Beh, quella con l'immagine del quadro... Il quarto stato. Il quarto stato. Ti risulta? Ma può essere. Attenzione che sta... qualcun altro sta cercando contemporaneamente. Intanto, Andrea, dici la tua. Allora, io volevo dire una cosa tipo quella di Paolo, ma... non vorrei che proprio si addormentassero tutti con una doppia canzone di questo tipo. Quindi potremmo mettere A las Barricadas, però versione Los Muertos de Cristo. Madonna, bellissima. Guardo anch'io se c'è, perché io c'ho il disco, ma non so se c'è su YouTube. Faremo il possibile, Guglielmo sta prendendo i suoi miliardi di appunti. Esattamente, e, nel frattempo... intanto svolge compiti... Ma poi li pubblichiamo i quaderni taccuini di Gulli, mi fate questa promessa. Ma penso cioè... che il database mondiale ma dell'internet non sia sufficiente. Tutto il tempo che farà disegnetti su quel coso. Il database del mondo di internet non sarà sufficiente per contenere tanta carta, poi per sprecata per comunque, cosa non lo so perché si sa. Siamo sempre qua a fare le stesse robe tutti i giorni, però fa niente. Ma le cose brutte sono due. Punto primo, i più interessanti e i più importanti li ho sempre persi, vi giuro. E questo, cioè, lo dice lunga. Quelli . In cui c'erano le cose più pesanti li ho sempre persi, ma poi persi tipo da idiota, tipo lanciati in un container in cui stavamo facendo un lavoro, stavamo sgomberando un appartamento. No, non sono un cederino, non fate la facile battuta. Stavamo la sgomberando un appartamento fare, e questo quaderno è stato confuso con il resto della rumenta ed è stato scagliato malamente in questo container perso. E con questo sembra l'incipit per una nostra puntata, Cose che vengono lanciate nella discarica. Vedi, va che bene. È già dentro le puntate nuove. Vedi? Esatto, cioè, già Paolo si è già inserito. Paolo, bisogna... tranquillo, che dura poco questo effetto. Esatto. Bisogna fare in modo che Andrea non ci molli, però non perdiamo la presa sul nostro intellettuale. Va bene, questa ci siamo, partiamo alla ricerca della seconda mentre Lorenzo vi intrattiene. Abbiamo detto A las Barricadas, versione Los Muertos de Cristos. Paolo, ma che c'è? Ti parlo col cuore perché anch'io aspiro a fare il documentarista, ancora non sono riuscito quasi a produrre niente se non cose molto molto piccole. E qual è stata la difficoltà più grande che hai riscontrato in questo lavoro? A me piace parlare delle cose negative più che di quelle positive. La cosa che dici, cavolo, questa mi sta dando problemi. Puoi anche dirmi niente, è andato tutto liscio come l'olio, Ma no, assolutamente, guarda. Allora, la fortuna è stata che ce la siamo studiata abbastanza a tavolino prima. E quindi... avevamo già un'idea generale di quello che sarebbe stato. Quindi è stato poi realizzare il documentario, mettere in pratica le varie parti che ci eravamo pensate. Il problema era, se queste parti che ci siamo pensate non funzionano, è un po' è la gatta da pelare. Però alla fine non è stata. Penso che forse la parte più difficile magari è in post-produzione, cosa metto, cosa non metto, ma la parte di revisione è sempre quella un po' più difficile, Concordo. In cui devi decidere cosa mettere, cosa non mettere. E sì, penso sia stata quella, ma poi nel senso, cioè, io francamente se penso a tutto questo documentario, vi giuro, la parte, cioè, ogni volta penso a Roma e tutti i vari deliri, cioè, quando abbiamo dormito al Forte Prenestino, in cui, cioè, ci svegliavamo una certa, aspettavamo qualcuno che aprisse e uscivamo. no. Per incamminarci lungo le vie di Roma. Classica scena da centro sociale, chiuso dentro. Chiuso dentro. Sequestrato dai compagni e dalle compagne. Ma c'è qualcuno con le chiavi? Ragazzi, mi fate uscire per cortesia. Ah, devo scavalcare. Ah, con la vorrei andare a fare un documentario, scusate. Beh, io potrei fare un'etnografia di tutte le volte che sono rimasto chiuso dentro un centro sociale. Certo. Certo. Questo potrebbe essere la prossima puntata. Beh, possiamo fare la prima volta, perché la prima volta non si scorda mai, sono rimasto chiuso dentro il Vittoria, avrò avuto 15 anni e non riuscivamo più a uscire, alla fine siamo usciti con una scala al cortile interno. Ma che poi questa cosa è veramente strana, perché i centri sociali non si, cioè, ti chiudono dentro, è una cosa stranissima. Perché sono pensati come fortezze, per evitare che... No, perché la questione è che da fuori ci entrano, questa è la cosa brutta, che da dentro non riesci a uscire, questa è la cosa strana, e la gente ti chiude dentro, boh, vabbè. Eppure. Allora, finalmente abbiamo ritrovato lo spirito della nostra trasmissione in chiusura. Wow, ci avete provato, eh. Abbiamo trovato tutte quante le canzoni che volevamo trovare, e quindi basta, possiamo finalmente salutarvi. Vi ringraziavo di questa lunghissima ma super mega fruttuosissima chiacchierata. Avrete nostre notizie, è la solita minaccia. Grazie Andrea, grazie Paolo. Grazie da Zona Rossa. Da vogliamo sapere. Ascoltateci anche noi. Ciao belli. Siamo convinti che abbiamo perso gli unici 10 che ci ascoltavano oggi, ma va bene. 10 sei positivo. Infatti, ci può avere un dato statistico di quante persone hanno ascoltato? Guarda, è talmente alta che 3. Il computer e una non sei gli tu. Fa. Non gli fa il computer. Non eravate voi che controllavate dal cellulare a posto. Esatto, più cazzo meno. No, però allora il dato sulla diretta non funziona molto bene, no, perché sul serio, cioè, se volete avuto... lo guardiamo in diretta adesso. Lo guardiamo in diretta lo adesso. Guardiamo, che Zona Rossa è pronta a tutto, cioè, diretta della diretta, se non guardare. Se è meno 2 Allora, siamo a 3. 3 con un picco di 6. Quei 3 che hanno resistito fino alla fine. Però esatto. C'è un picco di 6 però. Ma in realtà l'ho scoperto anch'io, le radio moderne adesso funzionano tanto non tanto sulla diretta quanto sul podcast. E noi abbiamo purtroppo davanti a noi la corazzata delle ribelli, trasmissione fatta da compagni di vero, reale valore intellettuale e umano, che ha viaggio sui 50 ascolti, noi siamo sui 30. Vediamo. Beh, se... Però... Noi adesso vi vediamo... difendete! Esatto, noi adesso abbiamo lanciato lo scatto finale per arrivare anche noi a una cifra significativa, abbiamo chiamato voi due. Poi facciamo un bagno di umiltà. Facciamo un bagno di umiltà e... Cosa? Vabbè, allora cogliamo anche l'occasione per salutare quei 30 che ascolteranno. Esatto, grande. Esatto. Grazie Paolo. Mi raccomando, spammate il podcast così supportate storie. Il progetto e andiamo avanti. Va bene. Comunque, sì? Questa la chiudo. Vai. Giugno 2021, sì? 100 anni dalla fondazione degli Arditi del Popolo. Attenzione! Vediamo, anche se ci sarà pandemia, vediamo grande gita, esatto, Civitavecchia. Esatto, si festeggerà col coronavirus magari. Dai, speriamo, sarà fantastico. Di nuovo grazie, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Va bene, chiudiamo questa lunghissima chiacchierata, con che figata, pezzone, non riesco nemmeno a dirlo. Con un bel pezzo. Amor ribelle, Pietro Gori, 2 minuti e 34 di Vera Rivoluzione, buon ascolto. All'amor tuo fanciulla, altro amor io preferia, è un ideal l'amante mia, a cui detti braccio e il mio cuore aborre sfida i potenti della terra e il mio braccio muove guerra al codardo, all'oppressor. Perché amiamo l'eguaglianza, ci chiamaron malfattori, ma noi siamo lavoratori e padroni non vogliamo, dei ribelli sventoliamo le bandiere insanguinate e innalziamo le barricate per la vera libertà. Tu vuoi, fanciulla cara, noi lassù combatteremo e nel dì che vinceremo braccio e cor ti donerò. Se tu vuoi, fanciulla cara, noi lassù combatteremo e nel dì che vinceremo braccio e cor ti donerò, e nel dì che vinceremo braccio e cor ti donerò. Torniamo in diretta soltanto per dire che adesso ci ascoltiamo il pezzo proposto da Andrea alla sbaricata su versione dei Los Muertos de Cristo. Costo nome poi. La bomba. Tre ascoltatori, uno è contentissimo. È vero che il tasto pausa fa andare... No, non è il tasto pausa, no. È questo qua. Quello lì. Lo dice anche la Z. Maggiore. Ma attenzione, ma squilla il telefono da solo. Ma io capisco. Lei ci ha persino Zona chiesto rossa. Se volevamo andare a cibarci. Ma sei pazza? Buonasera. Ma secondo te... Secondo te noi saltiamo la nostra seduta settimanale di ginnastica per salire d'aspetto? Secondo te Guglielmo non mi lega alla sedia con le catene pur di non farmi andare a mangiare? Cioè, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? È incredibile. Allora, in realtà era tutto un trucco, perché volevo evitare di fare una figura particolarmente grama dopo i due esperti di prima. Sì, ma io esorto gli ascoltatori. Per quando sarà questa puntata dedicata al, diciamo, questo monografico rispetto agli arditi, di sentire anche il buon Orso, che è un altro che ha fatto la tesi. Nel suo caso con un taglio un po' più, diciamo, specifico sugli studi strategici, ma è un altro che probabilmente si divertirebbe con i due fanciulli di cui sopra. Assolutamente, assolutamente. Infatti ho pensato tanto a lui, però la questione è che la roba di fare il collegamento con Paolo me l'aveva offerta proprio Andrea, e soprattutto tra Zoom e altri incastri non si riusciva a fare. Ma per carità, ma infatti dicevo per un monografico, anche perché effettivamente avrei avuto il piacere di sentirli per altre 16 ore, quindi spero che lo facciate, insomma. Anche noi, ci arriveremo. Poi Paolo è simpaticissimo. Ma certo. Super simpa. Va bene, allora, Chiara, sì, carissima. Sì, come potrebbe non essere simpatico? Solo io potrei non essere simpatico. Ma ce lo teniamo. Esatto, perché sono fatto così. Carissima, allora, sapevamo che tu eri presa da altri inconvenienti, ostacoli della vita quotidiana, ma abbiamo scelto di importunarti ancora perché non ci basta mai quella quantità di conoscenza, forse talvolta non direttamente utilizzabile, per usare un eufemismo, che tu ci doni ogni mercoledì. Hai tu voglia di donarci anche stasera qualcosa di così particolarmente particolare, ecco? Allora, sì, io volevo fare una precisazione all'inizio, in realtà, nel senso che questa è la versione cazzeggio della trasmissione, che non è ancora una trasmissione, che effettivamente non ha conoscenze spendibili, diciamo, ma che potenzialmente vorrebbe dire anche con leggerezza delle cose intelligenti, e invece siccome ci sono, per il momento ci sono solo io che sono una deficiente, e al momento c'è solo la parte deficiente. Ma poi non... è Zona Rossa che ti ospita, cioè Zona non Rossa... prenderti tutti i meriti, esatto, Zona Rossa che ti ospita. Con chi mi ospita, in realtà effettivamente, per esempio questa tematica che adesso spoileriamo, che è quella di oggi, gli imperatori di Roma, attenzione, la batta di storia meravigliosa, e questo è uno di quei tipici temi su cui io effettivamente, se e quando riusciremo a fare questa cosa, io ho un sacco di amici che dicono cose intelligenti e che spero di tirare in mezzo, e invece dobbiamo farla noi, sperando che non mi sentano mai, o comunque buttarla in cacciara a tutti i costi. Siamo quasi professionisti in questo, assolutamente. Esattamente, esattamente. Allora, la prima, diciamo che in realtà, diciamo, per inquadrare in maniera più che generale, gli imperatori di Roma sono stati tantissimi. Per dirla alla crudo, come il mio amico crudo, una freca nel senso che il periodo imperiale a Roma è durato dal 27 avanti Cristo al 476 dopo Cristo, una freca. Beh, di tempo, quindi 503 anni per un totale di 105 imperatori, e se fate una media sono praticamente meno di 5 anni a testa. Ma vero, quindi, insomma, un turnover pesante, insomma. Non benissimo, governi lampo che l'Italia repubblicana può accompagnare solo. Ma quindi è una tradizione antica, possiamo già molto, dirlo. Già nel sangue. Esattamente, esattamente. Tieni conto che appunto sono una media di 4 anni e 9, ma alcuni hanno governato anche per 15 anni, quindi ci sono delle persone che fanno la media 16 giorni, esattamente. Poi si ammazzano. Beh, insomma, ragazzi, non puoi sempre essere Silvio Berlusconi, talvolta sei anche, non so, un conte uno. Sì, ma ora c'è Silvio Berlusconi. Esattamente, esattamente. Calcolate che appunto alcuni di questi imperatori hanno avuto delle storie incredibili, poi come al solito alcune sono leggende e noi crediamo ciecamente perché ci piace. Ci piace credere, sì. Però alle volte sono vere in realtà, e alle volte invece sono un po' sì, un po' no. Siccome l'idea, l'intento è sempre quello di buttarla in cacciara, e il taglio appunto è quello della demenza, la teniamo sull'aneddotica simpa, facendo un elenco di un paio di 4-5 simpatici imperatori, tenendo conto che buona parte di questa aneddotica viene tirata fuori da un libro che viene scritto da tale Svetonio Tranquillo nel 120, che si chiama Vita dei Cesari, che adesso se lo faccio io no sembra una cosa da scemo, siccome ha scritto Svetonio Tranquillo nel 120, allora genio, no? Ah sì, certo, però alla fine stava scrivendo anche lui delle cagate su questi tizi. Cioè, ma quindi, un libro di satira politica? Esatto. No, sono aneddoti, solo che a noi ci sembrano delle cagate, e soprattutto se le dico io, quindi... Ok, perfetto. Ha scritto le stesse cose che vi dirò io, più o meno. Ok. Più che cospargerti il capo di cenere, ti stavi versando addosso una sabbiera piena di mozziconi. Madonna, ecco. Che metafora, esatto. Zona Rossa, che escono. Ma sto anche tentando di portare con me nel declino Svetonio Tranquillo. Mi piace questo intento di abbassare i classici. Vabbè, al nostro livello di iniziale. 1900 anni, se ne farà pure una ragione. Cioè. Va bene, avanti con gli aneddoti, sentiamo. Allora, il primo è facile, Caligola, lo conoscono un po' tutti, è una persona particolarmente sanguinaria, abbastanza squilibrata, era uno che provava abbastanza entusiasmo per le torture, le condanne a morte, a cui presenziava anche molto spesso, aveva addirittura suggerito i modi per uccidere le persone. C'aveva pure il motto tipo colpisci in modo che la vittima senta di morire. Quindi beh, è una sta simpatico simpatica. Un ragazzo positivo comunque. Simpatico Guascone, pare che in realtà non fosse sempre stato così, che avesse un po' perso la brocca quando gli era morta la sorella, quindi anche un po' un romantico. In realtà aveva preso prima il potere soffocando con un cuscino l'imperatore prima, ma quella era un po' una ragazzata, quindi vale, gliela passiamo. Vabbè, dai, lo perdoniamo per questo. Un altro aneddoto, diciamo un altro famoso aneddoto suo, era quello secondo cui avrebbe nominato senatore il proprio cavallo, Incitatus, o che comunque aveva intenzione di farlo, perché gli piaceva anche un po' umiliare il Senato e la classe nobiliare. Non c'è riuscito perché alla fine l'ha voluto uccidere con 30 coltellate, chissà come mai. E dopo meno di 4 anni di governo, a 28 anni, insomma, una vita ben spesa. È la stessa cosa che farei io con Hank, sai? Non male. Sì, ah, vorresti renderlo imperatore, sì, cioè, sì. Vorresti renderlo senatore della Repubblica o accoltellarlo? No, senatore della Repubblica. Ah, ok. Sì. Beh. Senatore della Repubblica. Forse è un insulto per Hank. Forse lui potrebbe mettere su mano. Secondo te potrebbe modo definire di su mano un senatore. Io comunque preferirei lui, se non ti scoccia. Sì, sicuramente. Era ovvio. Niente, allora, quello dopo è Nerone. Anche se di lui ci sono un sacco di aneddoti. Il più famoso è quello che lo lega all'incendio. Esatto. Ma in realtà ce n'è diversi. Anche la sua storia familiare, insomma, non è delle più serene. Tutto parte quando lui aveva 10-11 anni e sua mamma si ingelosisce perché lui è molto legato alla zia, e allora la fa accusare di avere complottato contro l'imperatore, la fa condannare a morte e obbliga Nerone a testimoniare contro la zia, tra l'altro Nerone che si chiamava ai tempi ancora Lucio, quindi il piccolo Lucio, insomma. Il piccolo Lucio, dopo di cui poi è famoso una nota canzone, era sempre Nerone da piccolo. Uh-huh. Ma comunque è un ambiente familiare positivo. Sì, bello. Sì, positivo. E appunto lui in realtà, cioè questo aneddoto famoso è quello dell'incendio, perché nel luglio del 64 divampa questo incendio a Roma gigantesco che va avanti per una settimana abbondante e fa 200.000 sfollati, che insomma all'epoca era un bel pieno di gente. In realtà lo si dipinge, poverino, lo si dipinge un po' peggio di come era, perché si ritenne per una cifra di tempo che fu lui a causare l'incendio. In realtà adesso sono abbastanza sicuri del contrario, non saprei dirvi bene come, ma anzi pare che lui abbia aiutato molto. Poi in realtà quello che è sicuro è che ha dato la causa ai cristiani di tutto e ne ha ucciso una cifra, e che ha costruito questa Domus Aurea che per l'appunto non potesse bruciarsi col fuoco. Anche lui non viene, perché alla fine l'hanno deposto e l'hanno obbligato ad uccidersi, e gli hanno appioppato pure la Damnatio Memoriae, che è la cancellazione del ricordo, che è questa simpatica cosa che facevano, cioè sostanzialmente questa cosa comportava la distruzione di ogni immagine, iscrizione o dedica, compresa la Domus Aurea, in maniera che non potesse essere ricordato dalle generazioni successive. Anche questa è una mossa di Radio Equilibrio di mente collettiva, cioè un'azione non serena. Male, ecco. Non male, uno degli aneddoti però più divertenti su Nerone, che io non conoscevo, era che lui ci avesse fra le altre manie questa fissa per la gravidanza. Non nel senso che voleva mettere incinta altre persone, ma proprio che voleva provarne lui una. No, no, sto male. Sì. E quindi aveva tirato in mezzo, giuro, tutto vero, aveva tirato in mezzo tutti i medici, ovviamente minacciandoli orribilmente per rimanere incinto. No, ma come? Finché a un certo punto ne trova due che gli danno questa pozione magica, che in realtà è composta di sonniferi e da una mini ranocchietta viva. Che rimanendo per l'appunto viva e zompettando nello stomaco di Nerone avrebbe dovuto simulare un bambino che scalciava. Ma ovviamente questi due, sapendo di questa cosa e sapendo del fatto che sarebbe andata a finire discretamente male, scappano. In realtà lui spariglia tutte le carte, perché quando viene fuori Nerone, anche detto Neurone, la piazza su un cocchio e la fa sfilare in giro per la città con 15 nobili al seguito. Vabbè, beh, comunque. Perché a un certo punto la rana scappa e si getta nel Tevere, e pare che in realtà il nome Laterano derivi proprio da lì, cioè dall'Artitans rana, dalla rana che è fuggita. Chiara, sono veramente a bocca aperta. Siamo sconvolti. Scioccatissimo. E c'è il pubblico che esorta all'inizio di un programma di 6 ore così. Invisibilio. Comunque, cioè, la cosa divertente è che adesso possiamo anche dire, per svelare questo background, perché tanto è un programma che va tutto un po' così a braccio. Io oggi, cioè, ti ho detto degli imperatori di Roma così, perché è la mia passione di sapere sussidiario, randomico, ma mi hai tirato fuori una roba veramente allucinante. Cioè, sono... La realtà ti sorprende sempre, ma un imperatore di Roma poteva essere veramente così appassionato per rimanere incinta, ma... Minchia. Non ci credo. Ma... Eppure. Non è ancora finita, sì. E questa è una cosa bella. Bene, sì. Allora, quello dopo è in realtà è un po' meno goloso dal punto di vista dell'aneddotica, ma ci stava a metterlo perché è Otone, che non è particolarmente famoso, e in realtà dopo due imperatori un po' ansia, distruzione e sanguinolenza, lui alla fine, tutto sommato, a suo modo era un bravo tipo. Oddio, cioè uno che ovviamente fa tutta una serie di congiure, svente, eccetera, eccetera, però insomma, diciamo, rispetto ai primi due, tendenzialmente un bravo tipo. Infatti regna dal 15 gennaio del 69 al 16 aprile del 69. Beh, un lunghissimo regno per lui. In questi tre mesi lui era uno che aveva aveva aiutato Galba a uccidere Nerone, che era l'imperatore subito prima di lui. E praticamente lui tendeva, allora erano tutte gens, quindi erano tutte famiglie, quando non erano famiglie si adottavano per essere famiglie per finte. Certo. E quindi nello specifico lui aiuta appunto Galba ad uccidere Nerone, il quale è un vecchio senza figli, e spera di essere adottato da Galba ed essere già in pole position per diventare imperatore. In realtà Galba lo balza e ne adotta un altro. Lui la prende bene, quindi dice vabbè, ok, grazie, e basta, paga un sacco di gente per organizzare una congiura e uccidere anche lui. In realtà, arrivato il momento, non se la sente, perché ci sono delle storie che forse uno che gli fa da guardia aveva capito, insomma, ritarda un po' questo omicidio, e nel dubbio si autoacclama imperatore. Così, via, non sappiamo cosa fare. E giustamente quello di prima diceva, scusa un attimo, cioè fammi capire, gli va a chiedere spiegazioni, bam, congiura, morto. A questo punto Otone diventa imperatore. Ah. Mille fisse, mille sensi di colpa per aver ucciso il suo predecessore, ma praticamente non lo lasciano tranquillo un attimo, perché 10 secondi dopo che lui viene dichiarato imperatore, si viene a sapere che nello stesso tempo in Germania le truppe avevano acclamato imperatore un altro tizio. Che disagio. Che si chiamava Vitellio. E quindi lui prova a fare un accordo, tentano un accordo questi due imperatori, si scontrano, non lo trovano evidentemente, si scontrano sulle rive del Po, e Otone, che non voleva aspettare rinforzi dalla Dalmazia, la parte un po', diciamo, fuori forma, e perde. Aspettava dei cani, lui, aspettava, insomma, 101 cani dalmata, vero? Da qui nasce il famoso film Disney. Ok. E quindi niente, praticamente, date le tante morte a causa sua, lui per evitare, in realtà adesso, per evitare anche nuove guerre civili che ovviamente sarebbero nate da lì a poco, va a dormire, dice vabbè, ci dormo un attimo su, il giorno si addormenta, si sveglia, il giorno dopo si suicida. Ci sta, dai, una mattina semplice, una mattinata un po'... Non sai come? Esatto. Con un pugnale, va a dormire con due pugnali e poi si pugnala ad un fianco. Si pugnala lui stesso al fianco. La Madonna, sì, ma sì. Che brutta morte. Comunque ci arrivano. Sì, tenete conto che Nerone si è suicidato, ma nel senso che l'hanno obbligato a suicidarsi, che era una cosa. Più o meno il 70% degli imperatori non sono morti nel loro letto. Ok. Insomma, cantata proprio. Non era una vita un po' così, era un po' sesso, droga, rock and roll, però senza né droga. Sesso, né droga, né rock and roll, solo morte e male. Esatto, ma nel senso che gli si diceva ti devi ammazzare? Sì. Ma sì. Ma era una pratica abbastanza diffusa comunque. Qui ci chiedono, ci arrivano messaggi in redazione, leggo testuali parole, aspetta che ce l'ho qua. Ma dove le trova ste cose? Con 5 punti esclamativi e 2 punti interrogativi. Guarda, c'è un blog che tra l'altro è quello da cui ho scoperto l'effetto Pac-Man. Ok. E il 5G? No, non è vero, comunque. Meraviglioso. Stavo già per parlare, per fare un intervento di 15 minuti su quanto è vero l'effetto Pac-Man. Cioè, è meraviglioso, è una cosa fantastica. Guarda, che l'ultima volta che abbiamo parlato della Luna, io non vi ho detto, ma avevo anche studiato che cosa ne pensavano i terrapiattisti della Luna. Madonna. Grazie. Oh, sono le 10:30, ma quasi non quasi sentivo questa parola da... Vorrei sapere cosa ne pensano i terapeutisti della Perché Luna. Perché effettivamente, cioè, non avrebbe senso per ovviamente loro. C'è la carota astrale. È una moneta. C'è una carota astrale? Una carota astrale, sì. Cosa vuol dire una carota astrale? Calotta. Ah, una calotta. Una carota. Una calotta tipo una... Una cupola. Una cupola. Attacco sì. Esattamente. Beh, dai. Esattamente. Non perdiamoci, eravamo sugli imperatori che a questo punto si povero Ottone si accoltella al fianco e si autouccide. Esatto, bene, esatto. Poi un altro diciamo di cui ci sono un sacco di aneddoti in realtà in questo caso, perché lui era uno conosciuto per avere uno spirito particolarmente ironico, era Vespasiano, che è famoso per avere il nome dei cessi. Certo. Nel senso che lui, fra le altre cose, aveva introdotto questo regime fiscale abbastanza massiccio, c'era un austerity anzitempo, cioè un governo Monti un po'... Stavo pensando anch'io, esatto. Così. E lui aveva creato, in particolare, aveva creato questo fiscus iudaicus, che erano delle tasse applicate agli ebrei, e quelle sugli orinatoi, che è appunto il motivo per cui i Vespasiani si chiamano così, ed è quello per cui è del motivo per cui c'è il motto famosissimo pecunia non olet, cioè il denaro non puzza, che è uno dei due insieme a cream, cash rules everything around me, sono i due motti sul cash, proprio perché in realtà il figlio Tito, che poi diventerà un altro imperatore famoso, in realtà lo rimproverava perché era un po' sconveniente, insomma, questa tassa sul piscio era un po' una cosa un po' brutta, e lui gli ha preso una mazzetta di soldi, gliel'ha messi sotto il naso e gli ha detto: come ti sembrano questi? Sono soldi normali, vedi, perché i soldi non puzzano, no? Qualsiasi sia la loro origine. Un'altra delle cose che ho scoperto, e questo vabbè è un aneddoto abbastanza classico, in realtà un'altra delle cose che mi aveva stupito era che lui pare che fosse particolarmente contrario ad usare l'energia idraulica per sostituire il lavoro umano, sostenendo che questo avrebbe creato moltissimi disoccupati. Ah, attenzione, dalla parte del popolo. Non voleva la macchina. Lo spirito luddista, ma avrebbe distrutto le pompe idrauliche, così. Era, come vedete, era anzitempo su un sacco di cose. Vespasiano, fra le altre cose, vabbè, lui per l'appunto aveva, a un certo punto pare che quest'altro aneddoto era che l'imperatore Vespasiano avrebbe ceduto alle insistenze di questa donna che si diceva super innamorata di lui, e praticamente che le avesse regalato addirittura dei soldi come ricompensa per le sue prestazioni, ma un botto di soldi. Ma la donna all'imperatore? Sì. No, lui a lei, nonostante fosse lei che era innamorata di lui. Ah, ok. E nello specifico le aveva regalato 400.000 sesterze, che era tipo, cioè, i soldi che servivano per essere cavalieri, quindi veramente una vagonata di sì. E a quanto pare il suo segretario gli aveva chiesto come voleva che venisse giustificata questa spesa, visto che c'erano tutti i libretti contabili, non avevano la Lammo, ma anche loro c'avevano i loro contabili, e Vespasiano aveva ordinato di scrivere per amore ispirato da Vespasiano, quindi così, cioè proprio se l'era rivendicata assai. Giusto, giusto, giusto. Tanto se sei l'imperatore Dio in terra, avrai anche la possibilità di scrivere sulla fattura il cazzo che ti pare. O no? Che cazzo ti pare, sì, esattamente. Abbastanza. Diciamo, questi sono i quattro eroi della mia cosa. In realtà ci sono un altro paio di aneddoti, però adesso non so se volete che prosegua o... Secondo me sugli ultimi quattro ci siamo. Più oltre, Lorenzo mi azzanna un braccio perché dobbiamo andare a mangiare. Solo colpa di Lorenzo. Sempre solo colpa di Lorenzo. Io mentre cercate la traccia, perché me la dovete, a questo punto me la dovete concedere. Naturalmente, traccia. Ma ci mancherebbe. Anche perché per una volta io non ho avuto alcuna esitazione rispetto alla traccia. Ah. Perché adesso, perché effettivamente fra i miei amici che sanno un sacco di cose a differenza mia, c'è un mio caro amico che è anche un mio collega, che è anche un ragazzo di zona. Attenzione. Che è anche un rapper. Attenzione. Che è molto potente, che si chiama Silla, e io vorrei sentire questa traccia che si chiama Marmo. Ok. Attenzione. L'altro bravo. Silla, che era un dictator, che invece era una figura precedente agli imperatori, per cui spero di tirarlo in mezzo in realtà. E quindi insomma vi beccate sto traccione potentissimo. Lui è molto bravo come storico ed è anche molto forte come rapper, quindi okay. No vabbè, ma qualche altro aneddoto dicelo, dai, proprio tre. Allora, nel frattempo vi posso dire che c'era questo imperatore Elio Gabalo, sì, che organizzava banchetti molto stravaganti, per cui faceva servire, questa me la sono insegnata, aspetta, faceva servire a tavola lenticchie con contorno di pietre preziose, no, bello, che ti portavi a casa, piselli con granelli d'oro e riso con perle bianche. Vabbè, ma è il menù che facciamo tutte le sere qua. Certo, certo, un gourmet proletario. Sì, è Fergino che cucina. Esatto. Lenticchie con pietre preziose. Esattamente, esattamente. E poi vi posso dire di altri due, in particolare dell'imperatore Domiziano, che faceva organizzare giochi consistenti in lotte fra donne e nani. Beh, per sobrio. Fare divertire gli spettatori del Colosseo. E invece un po' più persona male, l'imperatore Commodo, che scendeva nell'arena e combatteva lui, però tipo contro persone non allenate ai combattimenti, o zoppi, cioè non bellissimo insomma. Non bei gesti. Ma quindi è quel famoso Commodo che compare anche nel film di... Commodo 64. Che bravo, il Commodo 64 e il gladiatore. Che proprio storia. Lui. Che storia. Va bene, allora, noi la traccia l'abbiamo trovata. Anche la trazza. Anche la trazza. E ci hai veramente lasciato sbigotti anche questa volta. Chiara, vogliamo il tuo programma per forza, e troviamo il modo di farlo anche oltre la quarantena, perché c'è bisogno di dare più spazio all'Edipeo enciclopedico di cui ti fai testimone. Ne abbiamo bisogno. Cioè, il mondo ne sente la necessità. Esatto. E esatto. oltre esatto, anche, oltre. Esattamente. Assolutamente oltre. Anche oltre il mondo. Oltre il mondo non c'è niente. Non hai imparato proprio niente dalle teorie dei terratappisti. No, nulla. Non continua a distrarmi. Continua a distrarmi. E sì che sembravi quello primo della classe, Lorenzo. Eppure. Eppure niente. Va bene, allora, grazie mille, Chiara. Sei stato fantastico anche stasera. Ci hai scioccato anche stasera. Lorenzo, di qualcosa, se ne hai ancora la facoltà? No, non ce l'ho. Non ce n'ha. Va bene, allora lasciamo Silla, Marmo. Grazie mille, Chiara. Grazie, bellissimo. Chiara. Ciao. Ne? Allora, qua io non devo cazzeggiare, devo fare dissolvi ora, alzare la traccia, esatto. Alzare il deck e chiudere i nostri microfoni. Buon ascolto. Silla. Smizzy boy, con la testa su sentieri inestricabili, noti che ti sogno innumerabili, giacigli infiammabili, bisbigli ritrattali, sulla mia gola sento artigli retrattili, cammino contro vento, aria mutevole, vedo ancora in bianco e nero zone periferiche, senza diatribe, barricate patetiche, ho la sorte di Pericle, rime peripatetiche, confondi quel che è, quel che sembra, il ritratto della merda, un Rembrandt, è una lotta disperata, fa una gara chi ha più tempra, i tuoi sorrisi si spartiscono le mie membra, l'iricismo non s'abbassa, diluisco queste note, pessimismo su ste pagine, sciascia, io ci metto il vaffanculo, tu lascia, la mia biro su di voi, ascia. Senti. Gin limone, sogni aspri, scorza, sogni di gloria senza tempo, sforza, tenerli stretti sai costa, come spiegano congiura Lampugnani, sangue fuori Santo Stefano, è un macigno sopra il petto, è come se schiacciassi, dall'altra parte del micro scende Cain Velasquez, fumo stempass, Stanotte Siddhartha si reincarna, l'orologio scanna, usquanna. Vedo sto schifo e mi sedo, costretto ad odiarvi, tengo stretto un motivo per scordarvi. Sono i progressi a ingannarvi, civiltà dei regressi, dentro cessi tutti pronti, selfie. Fin troppo chiaro il mio futuro, HD, i miei giorni muoiono piano piano piano, ma tu taggami. Fumo sdraiato come Lazzaro, alzami, steppare, grido un chiaro chiaro chiaro, pagami. Versi in testa ancora son tanti, son tardi, vuoi tracciarli, vai tracciarli. La terra trema forte, mercarli, non scambiarmi, allacciati alla sedia, big dummy. Non ho la verità in tasca, ma so cosa non va. Attorno c'è reclam, porto il noir. La mia mondanità, sai qual è questa qua? Spiegarti come si fa. Lorenzo. Guglielmo. Ce l'abbiamo fatta. Se abbassi un attimo le casse. Ma perché dovremmo, quando possiamo far tornare un ritorno osceno in testa la gente? Zona rossa colpisce ancora, fa un disastro stasera, un disastro. Ma tre veramente. Ascoltatori, tre. Tre, tre. Tre, tre. Ce ne saranno molti di più un'altra volta. Poi vedremo il podcast, lo condiamo bene, tagliamo tutte le parti di Guglielmo e lasciamo un programma con io che dico mi sentite... Minchia, sarebbe una manata e fotonica. Tutti i bellissimi interventi che ci sono stati stasera, ringraziamo tutte le persone che abbiamo chiamato e vi ricordiamo che potete seguirci sulla pagina Facebook per insultarci, sul canale sempre Telegram comunque per ricevere insulti, assolutamente, sul canale di Mixcloud Archive per ascoltare gli insulti e perché poi sono tutti registrati e messi a posto. E salutate Cigo su Instagram. Ma sai chi sai chi dovrà fare il podcast di una puntata che dura 4 ore? No, io no, non devi lo sai. Devi farlo tu, devi farlo non lo tu. Sai. Abbiamo deciso di prendere altri 10 montatori. Oh, sì, finalmente, sì, soldi ben spesi. Montatori ben spesi. E montatrici, perché sono 5-5, soldi ben spesi, quindi... Quindi abitatori e mobili Ikea come se piovesse. E come se piovesse, montatori esattamente. Lì. Esattamente, fantastico. Proprio quelli. Facciamo pena anche in chiusura. Blu, esatto. Quindi va bene. Non aspettatevi il podcast, non domani, ma non dopodomani, ma fra 10 minuti. Bravi, bravi, bravi montatori e montatrici. Zona rossa, abbiamo finito di dire cazzate. Ciao a tutti e tutte. Ciao. Quando bevo sembro Forrest Gump, mi risveglio nel tenente Dan, da questa giungla come un Viet Cong. Torno a casa dopo il Vietnam, yeah. Fai il parancione tipo Donald Trump, yeah. A Milano mi con il tram, yeah. Mi perdo pure con il tom tom, potrei ballare pure il can can. Non devo dire mai di sì, meglio non dire mai di sì. Non devo dire mai di sì, meglio non dire mai di sì. Bevi questo, fuma quello, tira questo, tira quello, tira tardi, la mia faccia, tira segno, la tua faccia, di Natale, tira segno, mezzanotte, stile attento, chiama il busce con il boost, fa rispetto, per la fuga nella giungla, con le boost, e se lunghi, 10 grammi, complimenti. Sto pensando che fa schifo la coca, giuro che stanotte bro ci dormirò sopra. Tutto fatto sul sofa, tipo na na na na na na, non ricordo la strofa. Ho visto bene, e dopo dire, cose vere, da non dire. Appena il crocifisso manda a farsi benedire. Ho gli anni di Cristo quindi meglio non uscire. Sai quei film che ti dicevo, fa paura non ho visto la fine. Vuoi sapere qual è il titolo vero? Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Forse perché questa giungla non è così verde, non è come tu. Forse perché c'ho una palla di guida, se gine mi fa tutti giù. Forse perché quando vengo la notte mi ingoia, mi strappa la zia. E ti giuro è sicuro mi lascerà nudo a ballare sul mondo così. Così è, così è, così è, proprio così è. Così è, così è, così è, proprio così è. Vengo alla festa e poi pisce, ti scrivo il mio nome sul muro del pianto. E mi sveglio col cerchio alla testa, sicuro qualcuno mi avrà fatto santo. Più facile a farsi che a dirsi, rap 5 stelle mano Beppe Grillo. Difficile infatti capirsi, io porto rispetto solo perché brillo. Sapessi quante cose che non racconto, magari sarà un giorno sì ma non stavolta. Fumo tutto il giorno e sono stravolto, poi mi guardo intorno come già travolta. Sai quei film che ti dicevo, fa paura non ho visto la fine. Vuoi sapere qual è il titolo vero? Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire. Ho paura di uscire.